בלו טיים לייב. Live. Se mi guardi così mi emoziono. È un live variopinto stasera. Sì, un live variopinto. Molto preso stasera. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Sono preso nella fossa di leoni. Sì, che fossa di leoni? Fossa di leoni, hanno gli strumenti anche loro. Sì. I loro strumenti sono i CD, chiaramente. Buonasera da Agostino Spolaore, buonasera da Maurizio Calzavara, ma soprattutto buonasera da Blu Radio Veneto. Questa è la vostra emittente proprio preferita in questo preciso istante, la state ascoltando, quindi di sicuro vi piace. Questa sera sarà una serata all'insegna della musica, meglio dire, della storia della musica del rock. Non ci sarà un live in acustico, ma ci saranno illustri personaggi, due componenti, un bassista e poi un personaggio mitico che è venuto l'anno scorso, Fabio, e poi abbiamo un collega di un'altra emittente, ma li presentiamo tra qualche istante. Prima i nostri dati come di consueto, e cioè le nostre frequenze 88.700 e l'altra è 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Il nostro numero telefonico, se ci volete raggiungere in studio, lo 049 875 6423, e poi ancora le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra gestita da Alberto Prisco, che salutiamo, è appunto Blu Radio Veneto Rock Wave. E poi ancora, insomma, se ci volete scrivere, basta che potete scrivere appunto anche nella mia pagina, cioè nella pagina Facebook di Agostino Spolaore. Siamo anche su Twitter, siamo un po' dappertutto, quindi basta solo volere, ci cercate e noi saremo sempre lì a farvi compagnia. Anche nel nostro sito, basta scrivere nel motore di ricerca www.bluradioveneto.it, nella home page sulla sinistra c'è scritto ascolta la radio, lì potete tranquillamente cliccando ascoltare la nostra emittente, la vostra emittente, 24 ore su 24, assolutamente in diretta, in qualsiasi momento, in qualsiasi parte del mondo. Come dico sempre, lo streaming arriva ovunque. Stasera so che arriverà di sicuro anche in Brasile, ce l'hanno detto prima, quindi un benvenuto anche ai nostri ascoltatori brasiliani, ma già li abbiamo avuti con la giornata mondiale della gioventù, se ti ricordi. Certamente. Quindi siamo internazionali, ma veramente mondiali, e adesso è stato che presentare i nostri amici che sono venuti qui questa sera, e cioè Maurizio, lascia a te la presentazione. No, la presentazione come da prammatica la fai te, che sei il curatore del programma. Però c'hai gli occhialini, potevi farlo anche tu. Esatto. Allora, abbiamo un carissimo amico che ritorna dopo l'esperienza con Jesus Christ Superstar. Sono felice di riavere qui il bassista degli Swords, e cioè Cesare Maggiolo. Ciao, grazie, Cesare. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera Cesare. Ce l'hai sempre i capelli lunghi, non te li sei tagliati? Sì, assolutamente. Non c'è verso. Da boro che deve averli i capelli. Finché tengono. Anche la maglietta ho visto che c'hai. Sì, è un caso. È un caso ma... Poi al suo fianco c'è Fabio Pastore. Ciao Fabio. Ciao a tutti, ciao Agostino. Tu cosa sei, il chitarrista? Io sono chitarrista. Il chitarrista degli Swords. Non c'è la maglietta per lo stesso. No, neanche i capelli. Com'è sta cosa? E poi abbiamo un caro collega di un'altra emittente che adesso ci racconterà un po' tutto lui cosa fa nell'arco dell'etere, e anzi meglio dire dello streaming, vero Gianluca Mendolini. Certamente. Ciao Agostino, ciao Maurizio. La nostra enciclopedia vivente, no, Gianluca. Lui si occupa ed fa parte di un'altra emittente, giusto Gianluca? Allora, da ottobre del 2012 sono passato al web e mi sono agganciato ad un network internazionale, dopo l'esperienza di RCS che si è chiusa, ahimè, in non dico malo modo, ma comunque si è chiusa, punto, ecco. E adesso faccio un programma in inglese su awesomeradio.net, che è una web radio libera australiano-canadese, dove faccio programma sia di storia del rock in inglese, sia interviste come le fate voi, con band in cui presentiamo il disco, facciamo andare in onda tutto il disco, ma anche facciamo gli acustici in diretta. Bene. Fanno andare in onda tutto il disco, come si faceva una volta, caro Agostino. Come facciamo noi, come facciamo noi? Come facciamo noi? Però stasera io vi voglio fare un regalo, voi che siete gli amici, gli amanti della musica rock, con un giornalista, un grande professionista, un grande esponente della musica rock, ma ne la conosce in una maniera molto profonda, e cioè un carissimo amico del sottoscritto da qualche giorno a questa parte, ed è anche un carissimo amico tuo Gianluca. Sì. Ed è Paolo Ridaelli. Ciao Paolo. Ciao. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. Dopo questa presentazione rossisco violentemente. Sì. Tanto in radio non si vede, quindi. Tu ci stai ascoltando da Sondrio, vero Paolo? No, vi sto ascoltando da Bologna. Da Bologna. Sono però sei nativo di Sondrio. Di Sondrio, ma da un anno mi sono trasferito dalle parti di Bologna. Ah, sei un totale, insomma. Siamo in Emilia. Sì. Ho già preso un accento emiliano. Sì, sì. Un pochettino. Allora, chi è Paolo Redaelli? Chi è Paolo Redaelli? Una domanda, la famosa domanda delle 100 pistole. Diciamo che marzulliana, una domanda marzulliana, Paolo. Esatto. Chi è Paolo Redaelli e perché esiste e lotta con noi? No, diciamo che io sono un appassionato di rock fin dalla più tenera età, folgorato dal secondo album delle Zeppelin, per la precisione. E poi da allora ho sviluppato anche un percorso lavorativo parallelo, nel senso che mi sono interessato di giornalismo, faccio parte di una redazione degli spettacoli di un quotidiano lombardo, poi collaboro con varie riviste, seguo concerti, mastico storie del rock ormai da diverso tempo e diciamo che ho trasformato un po' quella che è una passione condivisa, credo, con molti di voi che state ascoltandoci in un lavoro. Noi dovevamo vederci questa sera, avevo chiesto se veniva anche lui qui a raccontarsi un po' anche lui la storia del rock, lui che è un grande conoscitore, e invece purtroppo siete, insomma, siete meravigliosi, io vi ringrazio, però purtroppo questa sera sono a cena con degli amici, per cui sono con voi spiritualmente per un po' e mi auguro che poi ci saranno altre occasioni. Sì, ci verrai a trovare, anche perché il nostro nonnetto di questa emittente, lui è sempre felice quando si parla di musica del rock. Cioè... Ah certo, quando sì. Si fa la storia del rock fa sempre bene alla salute, secondo me. Noi abbiamo una salute di ferro, a una certa età la salute ci vuole e il rock mantiene giovani, assolutamente. Ecco, anzitutto complimenti per la bella cosa che state facendo, perché c'è bisogno di parlare di rock e c'è bisogno di collocarlo anche storicamente. Certo. È il terzo anno che lo facciamo, abbiamo sempre avuto un grande ascolto, quindi era giusto continuare su questa tradizione estiva di Blu Radio Veneto. Fantastici, siete bravissimi. Poi magari la prossima volta ci vediamo anche con te. Facciamo il quarto anno con lui anche. Facciamo il quarto anno con lui. Io sono qua. Va bene, Paolo, noi ti ringraziamo della... Ti posso parlare brevemente del mio ultimo progetto? Certo, vai. Ne approfitto per fare un po' di promozione. Certo. Allora, si chiama Rock and Right, praticamente come rock and roll, ma con la parola roll sostituita da right, ed è un sito internet che unisce gli appassionati sia del rock che della scrittura. Come? Stiamo creando una grande storia del rock collettiva alla quale chiunque potrà partecipare dando il suo contributo, sia o meno uno scrittore, un giornalista, un professionista del settore, anche un semplice appassionato. E oltre a questo libro collettivo che diventerà un ebook, stiamo formando una community di appassionati. Quindi invito gli ascoltatori di Blu Radio Veneto a visitarci su rockandright.com ed eventualmente a fare il primo passo, che è la registrazione. Poi chi vorrà potrà dare anche il suo contributo scritto a questa che sarà una grande storia del rock collettiva. E sarebbe bello che qualcuno dasse il contributo. Ma io spero di sì, anche perché ho investito molto in questa operazione e mi auguro che ci siano delle adesioni. Diciamo, è un obiettivo abbastanza ambizioso, però nasce un po' dall'idea di condividerlo, certo. Di condividere questa passione con tanti appassionati che possano dare il loro contributo. Perfetto. Bene. Se volete contribuire a scrivere la grande storia del rock, che sarà una storia del rock chiaramente anglosassone, ma non solo, potete farlo visitando www.rockandride.com. Bene, e io ti auguro, anzi noi meglio dire, ti auguriamo veramente che molta gente scriva il loro pensiero, la propria idea, insomma, in merito, e così ti faccia onore, insomma. Esatto, si potrà scrivere la storia di un gruppo, ma anche recensire una canzone o un album, oppure parlare anche di una propria esperienza live. Insomma, metteteci, oltre che le informazioni, anche la passione, il cuore e le emozioni. Perfetto, va bene. Paolo, noi ti ringraziamo, grazie della telefonata, ci ha fatto molto piacere averti per pochi minuti, ma insomma sarai qui col cuore e col pensiero. Comunque ti farò avere il podcast, quindi grazie, potrai ascoltare. Siete stati gentilissimi e auguro buon ascolto a tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Ciao Paolo e ciao, buona Paolo, serata. Grazie, ciao a tutti. Grazie a te, Rock on sempre. Va bene, questo era Paolo Redaelli, come dicevo, un grande conoscitore della musica rock, che doveva esserci anche lui questa sera, ma insomma sarà per un'altra volta. Maurizio, adesso è tutta tua. Sì, non no, vedo l'ora. Cominciamo questa cavalcata, durerà fino alle 24, è tutto in diretta, cari ascoltatori, tutto in diretta. Allora, adesso mi devo alzare in piedi? No, non mi devo alzare in piedi. Perché? Perché Gianluca ha scelto i Pentangle come apertura di questa fantastica storia. Perché i Pentangle? Facciamo una piccola storia di questo gruppo straordinario, un po' sottovalutato in alcuni momenti. A torto, assolutamente allora, a torto. Guarda, vogliamo innanzitutto continuare il discorso dell'altra volta. L'altra volta abbiamo messo inizialmente i Fair Convention. Esattamente, poi adesso hai scelto il Pentangle. 1969, un anno importantissimo, non soltanto per lo sbarco nella Luna, a proposito, vero John? Esatto, no, perché il disco Basket of Light è forse uno dei più venduti, innanzitutto degli assolutamente dei più venduti, il singolo è il più venduto dei Pentangle. E comunque merita la discografia, perché sono dischi meravigliosi. Nel precedente disco Sweet Child c'è un pezzo che si chiama The Trees They Do Grow High, che è stato ripreso in italiano da Angelo Branduardi. È vero. Con il titolo Gli Alberi. Mentre invece Basket of Light contiene alcuni dei pezzi più famosi, ma quello che è bello di questo disco è innanzitutto la creatività che hanno messo all'interno i Pentangle. Diciamo chi erano i Pentangle. Un gruppo formato da due dei più grandi chitarristi folk inglesi, ovvero Bert Jansch, che è mancato l'anno scorso purtroppo. Una vita, anzi problemi con l'alcol, ha avuto parecchi anni di difficoltà, e John Rambert, che è un grandissimo musicista, ha fatto delle grandissime ricerche con un grandissimo, raffinato musicista, sì, raffinatissimo, soprattutto ha fatto delle ricerche anche sulla sì, musica certo. Medievale britannica. Questi due già si conoscevano nel circuito del folk club. Alla fine degli anni 60, dopo un disco Bert and John, decidono di formare un gruppo. Oltre a chiamare Jackie McShee, che aveva collaborato con John Rambert, voce meravigliosa, Jackie McShee, meravigliosa. Le grandi voci folk vicino a Sandy Denny, tra sì. Sandy Denny e Jackie McShee, ce la giochiamo. Anche Maddie Pryor, ce la giochiamo. E poi Terry Cox, l'altro non mi viene in mente in questo momento, ma c'è sicuramente Danny Thompson, che avevano suonato con i Blues Breakers di John Mayall. Esattamente. Quindi già, e proporre una musica della tradizione musicale britannica ripresa con le sonorità folk degli anni 70. Il risultato è un disco straordinario, è Basket of Light. La canzone che ho scelto è un classico. È anche un singolo. Certo. E anche, la... Cosa era anche praticamente? Era la sigla di una bravo. Di un programma televisivo. Take Free Girls. È un grande successo in Inghilterra. E non in Italia, perché questi trasmissioni... In Italia è un po' difficile. Era un po' difficile. Ma tante serie televisive britanniche venivano pochissimo in Italia. Tanto per dirci, il Doctor Who, che in Gran Bretagna ha spopolato per moltissimi anni, salvo qualche pausa tra gli anni 80 e gli anni 90, in Inghilterra è conosciutissimo. Certo. E tuttora va in onda, sta cominciando ad andare in onda anche da noi, ma io ho visto una puntata in Inghilterra in inglese e devo dire all'epoca era molto seguito, perché c'era David Tennant, che era forse il miglior Doctor Who di tutti i tempi. E questo è un pezzo del 1969, ricordiamo. Poi, molto importante. A proposito, visto che devono parlare loro a proposito di musica, il tempo di questa canzone cambia e varia e salta in maniera incredibile. Esattamente, qui abbiamo davanti due musicisti e poi potrebbero dare una colorazione musicale, proprio tecnica al pezzo. Adesso sentiamo prima, certo. Cosa dite? Volentieri. Ok, Light Flight. A better place, miles and miles away from the city's rays. Look around for someone lying in the sunshine, marking time. Hear the sighs, close your eyes. Ba-da-ba-doo-da-da-da-ba-doo-da-da. Stepping from cloud to cloud, passing years of light. Visit the frosty star. Oh, Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Io chiedo, c'è una richiesta, eh? Sono previsti i King Crimson? No, nella scaletta no. Nella scaletta no. Però c'è del prog. Se ti accontenti, Paolo, magari qualcosa si può fare. Prego. Allora, facciamo una disamina musicale da strumentisti. Vai. Cesare, prima. Un brano come questo, secondo me, a un musicista che si voglia fregiare di questo nome in maniera piena, completa, lascia a bocca aperta e ad occhi aperti, nel senso che voi provate a pensare cosa vuol dire, ne parlavamo prima fuori onda, cosa vuol dire coordinare insieme delle parti musicali che hanno dei tempi che poi ritroviamo solo nel jazz o nella musica sperimentale molto avanzata, con delle parti vocali così intricate, così complicate, che si intrecciano perfettamente l'una con l'altra. Io ne so qualcosa perché con i nostri Swords io sono bassista ma sono anche cantante, quindi avere un doppio ruolo già depista e porta via. Certe volte fare dal vivo delle cose che in studio si fai comodamente, ma suonarle dal vivo è veramente una pazzia. Ecco, provate a pensare cosa vuol dire pochi minuti di questo brano. In pochi minuti abbiamo attraversato la storia della musica, perché esatto, tempi pari, tempi dispari, armonizzazioni maggiori, minori, c'è di tutto, c'è veramente di tutto, di tutto. E fare una cosa così in un'epoca in cui non c'erano computer, loop elettronici, niente di tutto questo, a tempo e fatta bene, ragazzi, sembra una cretinata, ma c'è da veramente da diventare pazzi, pazzi a comporre, si diceva prima con Fabio, e la qualità, dici, Fabio? La qualità anche della registrazione, pensarlo e poi a farlo e a registrarlo così bene, cioè è una cosa assolutamente, secondo me dovrebbe essere messa a capostipite delle lezioni di musica per chi volesse intraprendere una qualsiasi carriera da cantante, da musicista, da strumentista, non so, la ritmica, la melodia, c'è dentro di tutto. Sì, esatto, veramente di nei tutto. Vari talent, no, ai quali ormai siamo abituati, invece che mettere come riferimento, per carità, grandi nomi che vengono messi, però anche questi che sono assolutamente sommersi con una qualità incredibile e insostituibile. La voce mette i brividi, cioè ha una qualità di ripresa ancora adesso che con tutti i nostri sistemi moderni ci colpisce, sì, c'è poco da fare. Da brividi. Adesso qua mi aiuterà Gianluca, mi pare di aver letto che quando i Pentangle andavano sul palco non provavano, andavano immediatamente sul palco e cominciavano immediatamente a suonare. Nati pronti. Nessuna prova. Sì. Questa è la storia di questo. Ma è gente che ha fatto anche gavetta nei folk club. Ha fatto tanta gavetta. E c'è una particolarità. 20 luglio 1969, adesso Gianluca ce la allarga questa particolarità. Un festival, Newport. È un festival importante dove hanno suonato. Fondamentale festival, esattamente. E praticamente in questo festival a un certo punto l'organizzatore sale sul palco e dice: guardate che siamo atterrati sulla luna. Ma il pubblico... E cosa succede? E gli ha detto: vattene, perché vogliamo sentire i Pentangle. Esattamente. E l'hanno detto che i musicisti. E non ha la leggenda metropolitana. È vero, è un fatto realmente accaduto. Fosse stato in Italia, abbiamo vinto i mondiali, tutto il pubblico se ne andava e ciao. E il musicista là a guardarci così. Fosse stato in Italia era difficile che suonassero i Pentangle, perché prima di arrivare alla cultura musicale sono un po' polemico, lo so. Ma va bene ogni tanto provocare su queste. È un pezzo meraviglioso, dopo 25 anni, sono 25 anni che non sentivo questo pezzo, e la magia è rimasta immutata, caro Gianluca. La bellezza del folk inglese. È assolutamente magico. Se vuoi capire, come dicevamo l'anno scorso, la cultura inglese nella parte sua più intimistica, devi ascoltare questi dischi, perché riprendono tutti questi musicisti, queste band folk, la loro tradizione. È un discorso di cui parlavamo anche l'anno scorso, appunto, riguardo al fatto della loro cultura popolare. Uh-huh, esatto. Che questo poi ha influito nella loro musica rock e ha... Già dai Beatles, voglio dire, certo, hanno ripreso anche loro dalla loro cultura popolare, dalla musica acustica, per poi trasformarlo in musica pop. Ma non è la musica pop di oggi, è una musica, vuol dire, che ha i crismi della musica britannica. Anche certa musica country o certa musica folk americana hanno i crismi della musica inglese, perché sono derivativi, certo, dagli emigrati che sono partiti dalla Scozia, dall'Irlanda e dall'Inghilterra per andare nel nuovo mondo. I famosi primi dischi di John Baez, tutti ricordano, provenivano da quelle cose, musica celtica proveniva da quello, i famosi monti Appalachiani, Appalachi, sono tutta là, la base è tutta là. semplice. Solo che in America si sono poi convertiti, cioè la musica si è adattata al luogo. Sì, certamente. Perché logicamente nella musica britannica, nella musica scozzese, parli della situazione del 700, dell'800, della povertà, degli omicidi, di tutte queste cose qua. In America, Mother Ballad. Esatto. In America parli di montagne, parli di pascoli, parli di cowboy, cioè è l'ambiente che crea la canzone, la musica. Essendo stato in Gran Bretagna più di una volta, ti rendi conto? Sei innamorato della Gran Bretagna, tanto, Gianluca, tanto, vero? Tantissimo. Molto. E l'Irlanda deve essere altrettanto bella. Tu, Agostino, sei innamorato della Gran Bretagna? Sì, perché hai parenti in Inghilterra. Certo, io sono stato anche. Sei stato in Inghilterra? Sono stato anche dove hanno suonato i Beatles. Ecco, vedi. Favoloso. Non ho visto la strada dove l'hanno attraversata, come ha visto Gianluca. L'ho vista io. Però, insomma, Abbey Road in... però ho vissuto la realtà di Liverpool, che è una realtà splendida. Infatti io sono rimasto stupito dai locali che ci sono lì, dalla semplicità. Cioè tu ascolti la musica in maniera tranquillamente, ma proprio semplice. Poi ce ne sono tanti. Qui esatto. In Italia non c'è, non c'è quella cultura, qui c'è caos, è gente che ride, che scherza, che alza la voce, mentre lì si ascolta. Qua no. Qua no. Qua no. Qua no. Qua no. Adesso passiamo la palla a Fabio, perché grazie. Ha dato una bella scelta. Andiamo molto più avanti, 2008 Fabio, quindi abbastanza contemporaneo. Andiamo parecchio avanti, è 2008, è l'anno di uscita di questo album, Seven Moons. Perché hai scelto Jack Bruce e Robin Trower? Perché è un duo esplosivo per certi versi, no? Cioè abbiamo un Jack Bruce che, come tutti sanno... Cesare dice di sì, è vero, conferma. Non posso restare indifferente. No, assolutamente no. Dei mitici Cream, con un chitarrista come Robin Trower, che è assolutamente un sognatore psicadelico... Hendrixiano. E come mai due menti così distanti sono riusciti a trovare un collegamento comune, secondo te? È un'alchimia, ma l'alchimia non è che te la spieghi a tavolino. Quando Robin Trower ha contattato Jack, questa cosa è qua... un tipo molto particolare, Jack. Sì, certo. Assolutamente particolare. Era molto a parte. Sa qualcosa di Clapton, molto a parte. Sì. Esattamente. Beh, lui ha raccontato che negli anni 50, diplomato conservatorio di Edimburgo, gli hanno proposto di andare a suonare nelle orchestre in Italia. Lui è arrivato in Italia a suonare, ha detto si ricorda di Celentano perché suonava poi ha detto mi sono reso conto che se voglio fare musicista professionista dovevo tornare in Gran Bretagna. Se te lo dice Jack Bruce qualcosa, la vista lunga. Quindi avete scelto un pezzo da questo album Seven Moons del 2008. Esatto. Fabio, il brano è The Last Door. Perché l'hai scelto? Cosa hai sentito tu? Mi è piaciuto il mood già iniziale del brano, cioè ti cattura subito questo brano qui. E ha una specie di, se vogliamo dire un brutto termine che si usa adesso, una specie di loop all'interno, che è fatto da due elementi del genere che arrivano dal passato, mi colpisce molto. È un modo molto ipnotico quasi di catturare dentro al brano, secondo me, però mantenendo la melodia. Hai detto una cosa bella... prima di partire con la trasmissione, è un disco del 2008, però poteva essere... sapore del passato, assolutamente. Se uno lo ascolta, non guarda le note, non vede l'anno, potrebbe essere stato fatto 20 anni, 30 anni fa, tranquillamente. Certamente. Certo, cambia la dinamica della registrazione, però per il resto, come qualità artistica, è quella del passato. Perfetto. Al meglio. L'ascoltiamo. Ok. Credo ci sia un problema tecnico. Sì, no. Leggermente, anche è un po' del passato, probabilmente. Adesso lo risolviamo. Lo risolviamo immediatamente, tutto dal vivo. Tutto dal vivo. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Allora, salutiamo già il Brasile, cioè Dilma ci sta ascoltando e la salutiamo caramente. Ciao Dilma, e, beh, insomma, vivi in un paese bellissimo, quindi... Poi volevo fare una domanda a un carissimo amico. Ti è piaciuta la chitarra, Tolo, in questo pezzo? Buonasera, Tolo! Ciao, ciao, ciao a tutti. Abbiamo Tolo Martone al telefono. Bella la chitarra, sì. Era. Sicuramente lo conoscevi questo pezzo, Tolo, te? No, no, proprio per niente. Ah, non lo conoscevo. No, io non ascolto mai musica, per cui non... No, comunque è molto bella, sì. Non solo la chitarra, anche le altre cose, tutto, anche la voce. Bello, bello. Bel suono, una cosa genuina, direi. Uh-huh. Se Fabio prima parlava a microfono spento, giustamente anche Cesare diceva, e Gianluca, un pezzo che poteva essere poteva venire fuori dai Cream senza nessun problema. Cosa dici, Tol? Sì, c'è il sapore, ci sono certi colori dei Cream. D'altra parte con Jack Bruce, no? C'è Jack Bruce, c'è la voce, Robin Trower è un musicista di quella generazione lì, quindi c'è tutto, ci sono tutti gli elementi per far sì che ci si ricordi, si rimandi a una certa epoca, quella dei Cream, di Jimi Hendrix, eccetera. Ma comunque è bello, molto bello, sì. Non so, ma quando è stato registrato, posso chiedere? Vai, Fabio. Questa cosa qua. Beh, la reunion è stata del 2007, ciao Tolo, e ciao. L'album è del 2008. Quindi quindi per uno che ha la mia età, ieri, cioè, esatto. Oggi, stamattina. Di pure la nostra, la Tolo, nostra, sì, non sì, ci sì, nascondiamo. Sì, sì, beh, 2008 vuol dire, sì, sì. Per solo cinque anni fa, quindi. Sì, non è successo niente in cinque anni. Appunto. No, ma è bello. Molto bello, sì. Sì, sì, molto bello, significativo, un progetto che io non conoscevo, che Fabio ci ha fatto conoscere stasera. Molto interessante, decisamente molto interessante. Un critico ha scritto che Robin Trower ha un po' mitigato la sua verve hendrixiana. Tu, Tolo, cosa ne pensi? Ma sentire questo brano qui, sì. E anzi, mi piace di più così, perché non apprezzo tanto, anche se viene da Robin Trower, che è un nome molto molto importante, un musicista molto grande, molto molto di quelli giusti, sì. Però mi piace sempre sentire che ognuno abbia una propria personalità e che non sia troppo troppo legato o schiavo di altri musicisti, cioè no, dei riferimenti e delle citazioni ci sono sempre, che van benissimo, perché soprattutto di citazioni dei grandissimi che hanno fatto la storia della musica, certo. Però c'è stato un periodo che Robin Trower effettivamente era un po' troppo simile, troppo imitava un po' troppo Jimi Hendrix, sì. Mm-hmm. Qui no, qui proprio non direi. Si sente quella cosa che ho detto prima, cioè quel suono, quel fraseggio, quel modo di trattare lo strumento, le note in maniera molto, molto calda, molto, molto vocale, che è tipico di quell'epoca lì. Questo mi pare, Fabio, è il terzo album che hanno fatto insieme. I primi due, sì, album furono, c'era un paroliere che io amo particolarmente, Keith Red, paroliere di Procolaro, e poi un certo personaggio, un grande Pete Brown. Poi in questo album hanno fatto tutto da soli, tutto, esatto, da soli, esatto. Volutamente. E il risultato mi sembra più che buono. Molto buono, direi, molto buono. Cosa dici, Tolo? Mi piacerebbe sentire qualcos'altro. Abbiamo tempo fino a mezzanotte, Tolo. C'è problema. Adesso tocca a Gianluca. C'è una specie di ping pong, no? Si passano la palla tra Fabio. Ma anche Cesare è pronto a dire qualcosa fra poco, Cesare. Lo vedo, lo sento. Fra poco. Gianluca, allora, cosa ci proponi? Allora, la mia scelta innanzitutto è ripresa ancora negli anni 60. No, prima abbiamo parlato del 69, adesso parliamo del periodo 68-69. In realtà questo pezzo è uscito solo su 45 giri, ma nell'edizione CD è stato incluso nell'unico disco dei Tomorrow, una formazione psichedelica in cui c'era Steve Howe, futuro Yes, e soprattutto John Adler, il batterista, ha detto anche Twink, batterista che ha suonato nei Pretty Things in SF Sorrow, ha suonato, che bello, Tomorrow, ha suonato i Pretty Things, che bello, che bello, nel disco psichedelico, nell'opera, che bello, che bello, molto grande bello. Disco, poi ha suonato nei Tomorrow, ha suonato nei Pink Fairies, ha realizzato uno stupendo disco che è Twink Pink, l'ultimo disco della psichedelia nel 1970, in un periodo in cui la psichedelia ormai lasciava lo spazio alla musica, all'hard rock in Inghilterra, al folk, altre cose, sonorità meno creative, meno, ma non per questo meno interessanti. Però quel periodo 1967-1969, periodo in cui la Londra psichedelica letteralmente detta legge in Europa, dopo l'esperienza di Tomorrow, quando Kate West prosegue con Except from Teenage Opera, poi vabbè, si perde in varie cose, Twink e il bassista Junior Wood dei Tomorrow decidono con il produttore dei Tomorrow di realizzare questo 45 giri a nome Aquarian Age, l'A-side, lato A. Dove l'hai pescato? Dove l'hai pescato questo singolo? Nel disco dei Tomorrow. Ecco, appunto. È una bonus track del disco dei Tomorrow, ecco. Però quello che questo pezzo, che si chiama 10,000 Words in a Cardboard Box, esiste in due versioni, cioè nella versione degli Aquarian Age, quindi una versione più flower pop, e in una versione molto più acida, più tra virgolette anarchica, nel suo disco da solista. Però per l'airplay di radio è meglio questa versione, perché innanzitutto la creatività di questo pezzo, e tante persone dicono sempre ma la musica di una volta dà maggiori emozioni rispetto a quella dei giorni nostri, la cosa che ti colpisce è che ogni strumento ha il suo spazio. Lo ascoltiamo per capire meglio. 10,000 Words in a Cardboard Box, The Aquarian Age. Shadows dancing round my head, rejoicing to the waking of the dead, dancing to the beat of the skinless drum, while the deaf man sings along with the dumb. How do you do? It's not nice to see you, nice to have seen you, goodbye. Soldiers, they might be in tune with three madmen waiting for a full moon. How do you do? It's not nice to see you. Nice to have seen you. Goodbye. To see you again. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Sì, Fabio diceva una cosa molto bella. Anche Cesare, cosa dici? Ci siamo ossigenati per questo pezzo, sì, assolutamente. Sì, sì, sì. Io non l'avevo mai sentito, è meraviglioso, arioso. Meraviglioso. Cosa dici, Cesare? Arioso. Sì, da tranquillità, ma anche angoscia nello stesso tempo. Ma infatti si parla di questo brano, adesso ho letto un po' la recensione, non lo conoscevo neanche io, bellissimo, dicendo che il tutto è nato un po' come un figlio illegittimo di Sgt. Pepper's, dei Beatles, di quell'epoca psichedelica che a un certo momento della musica inglese ha caratterizzato così tutta la produzione, eccetera. Però io adesso vorrei buttare il sasso, vedere quanti cerchi fa nell'acqua. Secondo me in questo poi verranno riprese tante atmosfere che poi saranno proprie di alcuni album dei Pink Floyd. L'ariosità è un certo tipo di melodia che deriva da questa psichedelia, secondo me poi verrà elaborata alla loro maniera da gruppi come Pink Floyd e quelli del loro filone. Cosa dite voi? Certo. Possiamo essere d'accordo. Loro saranno più sperimentali poi nell'elettronica, in un altro campo, però l'ariosità, ripeto, di certe melodie, secondo me... Quel che dicevo prima, appunto, che ogni strumento non si accavala mai. Bravo, bravo, ha il suo spazio. E forse anche per quello che certi pezzi di una volta si ricordano molto di più di certi pezzi di adesso. Assolutamente. Perché oggi si sovrappone tutto, no? Infatti. E la nostra mente non riesce a metabolizzare certi brani, mentre invece questi pezzi hanno il loro spazio. E la nostra mente può probabilmente... Ma qui è la scuola dell'arrangiamento che arriva dal passato, che è quella sopraffina proprio. Esatto, dell'arrangiamento, del non eccedere, proprio perché ognuno abbia il suo spazio. Si faceva questo discorso prima con Jack Bruce, no? Certo. Un musicista da un doppio ruolo incredibile, che però non ha mai ecceduto né nella voce né nel basso, eppure ha segnato anni di storia della musica senza fare né virtuosismi né... cose eccezionali, eppure ha sempre, come diceva Fabio, colto nel tanti segno. Tanti musicisti, una cosa che hanno detto proprio Pink Floyd, Nick Mason, che ha detto, no, che tanti parlano sempre di tecnica, di virtuosismi, noi non avevamo sta gran tecnica, bravo, però sapevamo scrivere le canzoni. Bravo. È quello che poi la bravo, gente ricorda, bravo, le canzoni. Eccolo lì. Eccolo perché lì. Ditemi un pezzo di Jeff Beck che è entrato nella storia. Non c'è. Perché non ha scritto la canzone. Esatto. È quello che la gente ricorda. Esatto. Tolo, sei d'accordo su questo discorso? Sull'ultima cosa su Jeff Beck, sì, sono molto d'accordo. Jeff Beck è un chitarrista di culto che piace tantissimo a tantissime persone, però è un chitarrista per i chitarristi. Giusto. Io mi sono trovato più di una volta a obiettare su, cioè, prendendomi anche le classiche parole, perché dicevo appunto che Jeff Beck aveva questo limite da un punto di vista musicale, e infatti non è mai stato uno dei miei preferiti, però con molto rispetto per Jeff Beck, ovviamente per il suo stile, la sua classe, tutto quello che può fare con la chitarra, per carità, ma vabbè. Però volevo dire anche un paio di cose. Sì, il brano che abbiamo appena ascoltato, ho pensato anch'io, che mi ricordava, mi sono venuti in mente i Beatles, e anche se George Harrison in particolare, c'erano delle atmosfere un po' così che avevo già sentito più o meno simili dalla musica di George Harrison. Su Jack Bruce non sono d'accordo sul fatto che non sia uno che strafaceva col basso, perché se torniamo a quell'epoca lì, nel 67, 68, quando i bassisti facevano tum, tum, tum, tum, tum, cioè facevano così, accompagnavano Jack Bruce, invece era un solista. Beh, Tolo, scusami se non sono d'accordo, ma se ti ricordi John Entwistle, perdonami. Sì, non ho capito. Se ti ricordi di John Entwistle, perdonami. Era proprio tum tum. No, ma stiamo facendo un paio di nomi, dai. Voglio dire che è stata un'epoca rivoluzionaria. Jack Bruce è stato uno che ha rivoluzionato il basso, come il bassista degli Who, ovviamente, come il batterista degli Who, come tutti questi, ma sono pochi, Cioè, lì c'era, prima di quello, c'era un modo di suonare il basso che era... come si dice, adatto alla musica che c'era, cioè certo. Questi qua hanno cambiato tutto. Non sto dicendo che Jack Bruce diciamo andasse fuori delle cose fosse eccessivo, era la musica che loro si esprimevano. No, ma fondamentalmente sono d'accordo con te. Il discorso era più riferito al fatto che componendo melodie semplici, come si diceva prima, un giro che sembrava un loop e cose del genere, erano già convincenti per il cuore che ci mettevano, non tanto per la tecnica. Ecco, questo era un po'. Dobbiamo sottolineare una cosa, Tolo. Nel pezzo è tutto il produttore che suona i pezzi, tutti gli strumenti. Infatti, il produttore, assolutamente lui, Che è il produttore che è Mark Ritz, il produttore dei Tomorrow e poi anche del 45 giri degli Aquarian Age. Quindi ha dato un impulso non da poco, cioè praticamente ha fatto tutto lui. E scusa, le voci. Forse ho sbagliato io. Allora, voi state parlando del quando dicevate che Jack Bruce non andava mai fuori dal, adesso non mi ricordo le parole esatte che avete usato, esagerato, non so, stavate parlando di questo disco che abbiamo ascoltato? Sì, parlavamo di questo, certo. Ah, sì, scusa, ma sai, da distante qui. Beh, certo, non c'è nessun problema. No, io avevo capito che Jack Bruce, per esempio all'epoca di Cream, stava sulle righe, non è così, perché in quel periodo lì, anzi dal vivo, era veramente un torrente di improvvisazione, di note, eccetera, eccetera. Non era stato un bassista di quelli tipici. E per fortuna. Io mi riferivo all'epoca dei Cream, poi su questo disco qui ho sentito solo questo brano, certo, non posso neanche pronunciarmi al di là del fatto che mi è piaciuto. Mm-hmm. È un pezzo molto bello, per un pezzo significativo nel senso che è una rarità assoluta, o quasi. Visto che i Tomorrow dal punto di vista del vinile sono scomparsi, sono da collezionisti, mentre sono stati riprodotti in CD, siamo d'accordo, però vinile, all'origine del vinile era molto raro, almeno in Italia, era difficile. Beh, forse all'estero magari. Ma anche in Inghilterra penso sia stato abbastanza raro, non era un gruppo da classifica. All'epoca non ebbe successo, però i musicisti che hanno suonato in questa band, una bella strada, sicuramente. Forse oggi da rivalutare in un'epoca in cui la musica, abbiamo tutti questa sensazione che non sia così eccelsa, no? Poi senti questa cosa qua e grida il capolavoro. Ah certo, sono d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo. È una sensazione. Adesso passiamo a una cosa molto recente, Tolo, una scelta di Fabio. Sì, adesso si gira decisamente pagina, nel senso che è il brano più recente, credo, della serata. Tratto da un album, Renegade Creation, del 2010, di una formazione costituita da tutti i mega musicisti, Michael Landau, Robin Ford, Jimmy Haslip e Gary Novak. Michael Landau e Robin Ford, chitarristi assolutamente strepitosi e conosciuti, penso, da tutti, che hanno collaborato con musicisti del tipo di Miles Davis, ad esempio, James Taylor, Joni Mitchell, e, oltre alla loro carriera solista. E Jimmy Haslip invece era bassista degli Yellow Jackets, tra le varie cose, e Gary Novak collaborato invece era batterista con Chick Corea. Sì, quindi per cui insomma una bella crema, direi anche di più di una crema. Sì, esattamente. Diciamo qualcosa di sostanzioso, di budinoso, ad esempio. Il brano perché hai scelto questo pezzo qua, Fabio? Soft in Black Jeans è un brano che apre quest'album e ha un nonostante sia stato creato da questi musicisti molto tecnici, la magia del fatto di rendere un brano ascoltabile, mentre di solito siamo abituati a musicisti che usano, non so, 3000 note, uh-huh, o fanno parti intricatissime, loro creano delle cose piuttosto complicate all'interno di questa cosa, però mantenendo comunque la melodia come motivo principale, per cui riescono a fruirne tutti, e questo è il segreto di questo brano, secondo me. Per cui io direi di farlo ascoltare. Certamente. Soft in Black Jeans. Right behind the counter, pretending not to care. Soft in black jeans is tying up her hair. I think of cotton candy, of cantaloupe and wine. I feel the fall of a mighty rain. Let it fall down, I lose myself, I feel no pain. Soft you move me, behind the counter, trying not to look. Soft in black jeans, pretends to read a book. But things are set in motion, and what will be. They watch the sunrise from the sea. Let it shine on a jewel born out of alchemy. Soft you move me, soft you move me, soft you move me. Soft and me, take the shape of a flying V. We go walking hand in hand. We're on our way to a promised land. We watch the sunrise from the sea. Let it shine on a jewel born. Sono le 21:56 minuti, sempre Blu Radio Veneto con voi, con Maurizio, con Agostino, ma soprattutto con Gianluca Merlin, con Fabio Pastore, con Cesare Maggiolo e con Tolo Martone al telefono. Cerchiamo, insomma, di regalarvi un po' di... Cercano, meglio dire, io non mi metto in mezzo perché sono talmente ignorante in merito a sentire questi mostri sacri che sanno tutto e di più. Stanno cercando di regalarvi un po' di quello che è la storia del rock. Caro Tolo, cosa ne pensi di questo pezzo? A noi è piaciuto molto perché sì, ci sono delle eccellenze musicali, però sono eccellenze che hanno uno il proprio ruolo. Allora, mi è piaciuto, prima di tutto, mi è piaciuto molto. Dirò che fa venire voglia di prendere la chitarra in mano. Insomma. Ecco, appunto. Ma anche la voce mi sembrava quella di Robin Ford, o sbaglio? Sì, esatto, sì, sì, esattamente, esatto. Lui. La chitarra non sono sicuro, anche perché sentire Robin Ford in un contesto così è un po' diverso da quello che si sente di solito, che è più in un contesto di blues moderno, raffinato, mentre qui c'era più, forse mi piaceva di più qui come musica, più più, ma non è blues, è solo sfiorato il blues qua, cosa dici? Infatti questo tra le righe, tra le righe è quello che sto dicendo. Che sono di solito, ormai da diversi anni, Robin Ford si esibisce dal vivo, suona in un contesto più blues inteso ampio del termine, perché lui non è un, cioè, quello che fa blues è il giro di 12 misure eccetera e basta, cioè uno che arricchisce con molta armonia, molto jazz eccetera. Qui è diverso, sentivo una cosa diversa, molto molto interessante, sì sì, certamente. Cesare, cosa ne pensi di questo pezzo? A noi è piaciuto molto. Brani molto belli finora, 3-4. Sì, se ne parlava appunto anche prima, è uno di quegli esempi in cui lo spessore dei musicisti, come si diceva, non serve solo a far vedere quanto bravo sono, quanto tecnico sono. Tante volte lo spessore serve anche a semplicemente fare una bella canzone. Quello questa che era si definisce una bella canzone. Che non è banale, si diceva prima con Gianluca. Certo. Non è banale, perché fare la bella canzone, la canzone pop, la canzone orecchiabile, adesso orecchiabile ha preso un po' un significato negativo, ecco. Della cosa. E in realtà, secondo me, orecchiabile in questo senso è un termine positivo, una canzone che ti entra dentro subito, che ti fa venire voglia, come diceva giustamente Toro, di prendere in mano la chitarra, perché ti trasporta, ti dà questo senso così leggero ma non banale. Ci vuole dell'arte per fare una cosa del genere, non è semplice, secondo me. E Fabio sottolineava il fiorfiore di batterista che c'è, che ha suonato con Ciccoria, si manteneva anche se era un fiorfiore di batterista. Assolutamente sì, c'è uno che riesce a fare un disegno ritmico a volte anche complesso all'interno di un brano semplice, per cui puoi solo battere le mani. La particolarità dei musicisti AOR, no? Si parlava tempo fa di Toto, dei Journey, cioè di musicisti che avevano suonato con il fiorfiore dei produttori che si mettono a fare un rock di risalto radiofonico, ma con grande capacità musicale e strumentale. Certo. Realizzando dei pezzi che tutti conoscono. Esatto, esatto. Sì, questo secondo me è il tipico brano che, ascoltato dal musicista, da quello che c'è dentro, è bello, perché riesci a cogliere le perle, come le chiamava Fabio prima, no? Ogni tanto ci sono queste perle, queste cose, dici, ah, senti qua che roba. Ma ascoltato anche dal profano, assolutamente fa la sua figura, non viene snobbato, viene capito, viene apprezzato, non è poco, secondo me. Sì, sì. Perfettamente d'accordo. Cosa ne pensi, Tolo? Posso aggiungere che la musica è bello ascoltarla da profani, ma nel senso da ascoltatori, io direi, neanche da profani, da ascoltatori, perché se ci dimentichiamo, facciamo finta di non essere musicisti, si aprono delle possibilità, delle intuizioni che da musicisti spesso non... Verissimo. Il fatto stesso di essere musicisti ci impedisce, perché ci si concentra un po' troppo sulla tecnica, su quanto bravo è uno, su quanto poco bravo è un altro, eccetera, mentre così da ascoltatori è più facile poi andare a capire e farci prendere coinvolgere dalle cose più profonde che la musica ti può dare, no? È verissimo. Io personalmente mi è servito tanto, mi serve ancora ascoltare musica non da musicista. Sì, assolutamente, anch'io mi sono riappropriato negli ultimi anni proprio di questa abitudine che avevo all'inizio, magari quando avevo 12-13 anni, e vedo che mi può dare moltissimo anche poi nella musica che suono. Cioè, è assolutamente una cosa che ha un riflesso positivo. Sì, e poi questa musica qui che abbiamo ascoltato finora, cioè anche l'ultimo brano, adesso se lo paragoniamo a quello che si sente adesso, che spesso non è così facile, volendo, perché assolutamente no. Non dimentichiamoci che cosa ci passa il convento da un po' di anni a sta parte. Mamma mia, non è così facile, non è tu la definisci una canzone, ma sì, è una canzone, però canzone oggi vuol dire un'altra cosa. Purtroppo sì. A proposito di questa non è una canzone, quella che propone adesso Gianluca, io questo gruppo non lo conosco, adesso mi dai un resoconto, una fotografia del pezzo che hai scelto. 1970, già un bell'anno il 70, esatto. E in realtà questo disco è l'ultimo disco della West Coast Pop Art Experimental Band. Chi sono già? È una formazione acid folk americana che aveva già prodotto alcuni dischi, ma nell'ultimo disco il leader Bob Markley, nulla a che vedere con Bob Marley, sì, che non c'entra niente, non Bob c'entra Markley niente. Decide di cambiare il nome e di relegare gli altri membri a semplici session man, ne esce fuori un disco paradossalmente più orecchiabile, ma non per questo, come dicevamo prima, non meno banale, con la creatività della psichedelia, con dei pezzi folk, ma grandissima creatività. Io ho scelto questo pezzo perché un giorno l'ho ascoltato. Dove l'hai pescato? Ah, sai, Facebook è una grandissima comunità di appassionati, gente anche abbastanza, come dire, hardcore dal punto di vista dei gusti. Cioè, io ho amicizie anche di persone che scavano nella psichedelia fino a trovare il singolo oscuro, e mi è praticamente caduto l'orecchio su questo pezzo che si chiama Roger the Rocket Ship. Intanto per l'arrangiamento meraviglioso per un organo Hammond che è assolutamente sognante, ma poi perché la combinazione del testo, come dire, spaziale, sì, perché comunque ha una tematica un po' folle, un po' spaziale, che ricorda un po' Space Oddity di David Bowie, quindi questa tematica che... Siamo là al periodo, Sì, circa. un po' fantasy anche, no? È combinata la copertina che è meravigliosa e come dire, ha una creatività che è la cosa che voglio sottolineare in queste prime tre scelte dei musicisti nel fare un pezzo che ti fa immaginare, cioè ti fa viaggiare con la mente e ti fa venire quella pelle d'oca che senti quando senti questo pezzo qua. Roger the Rocket Ship, Markley & Group, 1970. Prego. Interplanetary spaceships and magnetic storms. Some sort of advanced warning system should be set up. Look out for solar flares, pole bears, and a third eye that watches every move you make, watches every step you take. Look out for radiation risk in freshwater lakes. Look out for me, I'll tear you apart. Look out for me, I have no heart. Hello, my dear, you know I'm here. I'm Rocket the Roger Ship. Oh, Roger the Rocket Ship. Creeping communism, two-party majorities, the frightened right, spiders, other crawlers of the night, governors and presidents of universities, a Hayakawa, Okinawa, anyone too old for changes, girls that pick their noses, rubber hoses, war toys, boys. Feed the flu, new girls and showers with your father. Look out for me, I'll tear you apart. Look out for me, I have no heart. But hello, my dear, you know I'm here. I'm Rocket the Roger Ship. Oh, Roger the Rocket Ship. Dunque, io non lo conoscevo questo pezzo, poi Gianluca me l'ha fatto conoscere, mi sono innamorato di questo pezzo, mi è piaciuto un sacco, mi è piaciuta la voce di questo, del vocalist, una voce che ricordava, io sono un donoviano di ferro, da sempre stato donoviano di ferro, e mi ricordava qualcosa di Donovan, non chitarra e voce solamente di Donovan. Donovan ha fatto tante cose psichedeliche, tante cose un po' strane. È stato il suo produttore a portarlo verso sonorità psichedeliche, proprio per evitare di farlo diventare il Dylan scozzese. Difatti era il Dylan scozzese. Donovan a me è piaciuto sempre, e questo pezzo mi ricorda la voce di Donovan, non le atmosfere. le atmosfere sono diverse, ma molto semplice come struttura, ma meravigliosa come impostazione. È Lemmond che dà tutto il tocco. Caro Tolo, cosa ne pensi di questa nostra scelta, questa chicca del 1970? Mai sentito prima, non l'avevo mai sentito, d'altra parte è normale che non l'abbia mai sentito, perché io non solo te, no, non solo te, sono un ascoltatore, cioè sono un musicista prima e ascoltatore, non conosco veramente tutto, conosco una parte dei musicisti, io ascolto, cioè conosco i grandi, i famosi, no? Infatti mi stavo chiedendo in questo momento, questa trasmissione ha una piega molto molto specializzata, perché non stiamo ascoltando cose che sono nell'immaginario collettivo della storia del rock, mi sembra, no? Stiamo ascoltando delle cose molto rare che sono molto interessanti, e sì, ricordava anche a me la voce di Donovan, effettivamente, e anche un po' la musica di certe cose di Donovan, sì. Bello, interessante, anche Lemmond in due parti, c'era una parte più un suono classico, un'altra parte più verso la fine che questo suono liquido un po' degli anni 60, che si sente anche nei film, nelle colonne sonore dei film dei primi anni 60, non so se avete presente, soprattutto quelli italiani, della commedia italiana, magari un altro contesto. Magari un'altra musica, un altro contesto, però il suono che veniva usato era un po' simile. Mm-hmm. Vero, vero. Gianluca l'ha confermato, vero Gianluca? Dice... Qualcosa di fantascienza. Esattamente, qualcosa. Lemmond è stato utilizzato anche per sonorizzazioni di fantascienza. Sì, sì, beh, ogni epoca, ogni decennio, ogni quinquennio ha dei suoi suoni, anche nei film. Ah, certo, certo. Considerando che Lemmond ha una gamma di 36.000 suoni nei drawbars, sì, poi... Sì, sì. E la maggior parte ne usa solo due. Quello è il problema. Questo è vero. È verissimo questo. Adesso Fabio ha scelto una cosa meravigliosa, una ballad meravigliosa. Sì, vero Fabio? Sì, un brano da un album, non uno dei più famosi assolutamente, di Jeff Beck, per cui parliamo di un grandissimo, e l'album è Flash. La canzone è una delle tre che bene o male la critica ha salvato all'interno di quest'album, perché non lo ritiene sicuramente un album miliare, insomma, della carriera di Jeff Beck, però con questo brano più un altro paio di brani si è assicurato assolutamente di rimanere nell'ascolto di molti. Forse questo è un brano che sicuramente qualcuno ha già ascoltato, sì. non è un lato oscuro come gli altri canzoni trovate in angoli bui delle produzioni passate, ma questo qui è assolutamente un brano famoso, dove c'è un altro grandissimo grande amico. Un amico, come si può dire in dialetto? Un amicone che è Rod Stewart. Per cui un abbinamento di adesso si potrebbe dire vecchie glorie, ma assolutamente due leoni della musica del rock storica. Per cui direi di ascoltarlo. People Get Ready. Passengers from Davvero una ballatona, come dicevi tu Maurizio, un pezzo straordinario, bellissimo, che penso abbia veramente creato emozioni anche ai nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando. Insomma, questa è una seratona dedicata alla musica rock, lo ricordo, fino alle ore 24 circa. Abbiamo quattro artisti, si posso dire così, dal rock, a cominciare da Gianluca Merlin, collega di un'emittente, Fabio Pastore, Cesare Maggiolo degli Swords e Tolo Marton, che insomma lo conoscete anche tutti quanti per il suo passato, il suo amore per la musica poi soprattutto. Fabio, mentre il pezzo andava, ha detto una cosa molto bella, una considerazione. Adesso Fabio la dice in diretta, il discorso della balla, se fosse stata scritta da un altro. Sì, le cose migliori le dico a microfono spento, questo è preoccupante, però comunque dovremmo fare una candid allora. Esatto. No, è una ballad che, cioè, sì, se la dovesse fare qualsiasi altro musicista, ma anche bravi, non dico quelli improvvisati, ma sarebbe difficile tenere la durata di questo brano, che adesso esattamente non so se 3:43 circa, ecco, forse più lunga, 5 minuti, quasi 5 minuti. Ora 3:43 solo in un determinato momento, okay. In un determinato momento. Ti sei perso un pezzo di canzone. Esattamente. 4:41. Vabbè, ecco, siamo messi d'accordo. Direi che veramente sarebbe difficilissimo tenere l'attenzione dell'ascoltatore, o comunque farlo tenere, tenendolo sospeso su queste melodie fino alla fine, senza risultare pesante o stucchevole o ripetitivo, o cioè facendoti magari addormentare, perché poi ci sono delle balle che non sono interessanti. Ma qui invece abbiamo assoluta qualità dei due protagonisti, una chitarra che cesella di fino con un suono stupendo, tra le testimonianze migliori degli anni 80, dove invece appunto hanno cominciato a piombare le ritmiche sintetizzate di vari gruppi, per cui a far perdere un po' di magia alla musica, secondo me. Ma in questo caso sono riusciti al meglio a fare il loro proposito, a rendere il brano. voi che ne pensate? Ah, io sono perfettamente d'accordo. Cesare, cosa dici di questo pezzo? Non dimentichiamo che una voce come quella di Rod Stewart, ragazzi, ha fatto un'epoca. E in questo brano ha dato una zampata non indifferente, quindi il connubio fra i due, secondo me, qui ha funzionato alla grande, questo sì. Tolo, cosa ne pensi di questo pezzo? Ahimè, io sono ho un altro parere su questo pezzo, perché si sentono gli anni '80, effettivamente, si sentono tutti. C'è una ballata molto commerciale, direi, ma questo lo dico proprio termine commerciale, cioè commerciale non è un termine negativo, automaticamente negativo. In questo caso si sente che è una cosa molto commerciale, e entrando più sul discorso un po' più tecnico, nelle viscere così dei suoni, Jeff Beck ha il pregio o il difetto, a seconda dei punti di vista, di essere uno che si è sempre modernizzato e tenuto al passo coi tempi. Però questo non significa, naturalmente questo è solo il mio parere, non significa che sia una cosa positiva, perché i suoni degli anni '80, e si sente in questo assolo, in questa chitarra, sono stucchevoli, secondo me, e hanno questo suono molto plasticoso, molto appiccicaticcio, direi, che è tipico di questo tipo di suono qui. Però, ripeto, questo è un mio parere e mi assumo tutte le responsabilità di quello che dico. Del caso. La canzone di per sé non mi dice un granché. Certo, è interpretata bene da Rod Stewart, però ce ne sono tante molto più belle anche di Rod Stewart, che cantate da Rod Stewart. Beh, infatti avevo premesso che era uno dei tre brani salvati in quest'album, ma comunque sì, l'album risente assolutamente sì della plasticosità degli anni '80, quello in dubbio. Infatti non è un album storico questo qui. Però sì, certamente in un'epoca in cui andavano le tastierine elettroniche, esatto, con le batterie elettroniche, sono d'accordissimo che si distingue, si distingue come, sì, certo. Sì, io non ho mai avuto una gran passione per gli anni '80 musicalmente, per cui sì, dico anche che è un buon brano per essere stato negli anni '80. Concordo. Rod Stewart aveva sempre avuto sempre la possibilità e la capacità di scegliere, di carpire sempre da determinati musicisti e fare con la sua voce grandi successi internazionali, anche pezzi non di grande levatura. Questo secondo noi, però, io, è un mio parere personale, a me è piaciuto molto, è una bella ballad, sì, forse convenzionale, però con la voce di Rod, quelle da festini, sai, quelle, ecco, può darsi. La festa di liceo, mi mette una descrizione dialettale che mi risparmio, benissimo. Bene, adesso abbiamo, cioè, Gianluca ha scelto un grande musicista, poco conosciuto, ma grandissimo. Conosciuto dai fans dei Pink Floyd, perché ha partecipato a Wish You Were Here nel brano Have a Cigar. Perché è un amico di... Grande amico, loro hanno anche suonato in un disco di Roy Harper. Certamente. E io però ho scelto un Roy Harper inedito. Che è un titolo impossibile da pronunciare. Perfetto, l'hai pronunciato. Ed è Roy Harper, il primo Roy Harper, quello più acustico, ma anche, cioè, inteso come acustico, perché noi quando parliamo di chitarra acustica parliamo sempre di soliti 3-4 accordi, ma Roy Harper è innanzitutto un fine chitarrista finger picking. Certo. E questo disco è in parte dominato anche da questo finger picking straordinario di Roy Harper. E io ho scelto un brano che si chiama Sergeant Sunshine, e testimonia un po' il personaggio Roy Harper, che era un personaggio che ha avuto un'infanzia travagliatissima, e addirittura la matrigna e il padre lo credevano un po' fuori di testa all'epoca. Sapete che per curare certe cose utilizzavano l'elettroshock, e l'hanno internato in manicomio. Lui poi ha sofferto di crisi depressiva, ha avuto per tutta la sua carriera musicale fino ai giorni nostri, è stato torturato da grossi problemi di salute, e questi problemi di salute gli hanno influenzato innanzitutto la musica e i testi. E in particolar modo questo pezzo, che sentirete è un po' ieratico, è il termine giusto, che si chiama Sergeant Sunshine, però è anche qui folk creativo, rimaniamo sempre nel filo conduttore fino adesso, poi cambieremo, sentirete che la musica cambierà. Però io direi, ci ascoltiamo da Folk Joe Capus del 1969, Sergeant Sunshine. rides his clanging cow. The sun explodes above the brow. The village venom's daily vow. That can't tell when from anyhow. Has seized the grip upon its plow and knows how much to raise a brow. When steps are taken to allow a thoughtful thought to take a bow. But all the time, it's now somehow. All the time, it's now. And Sergeant Sunshine's made the choice. Sergeant Sunshine smokes the choice. Sergeant Sunshine struck for light outside the city hall. With the sky so blue to fall into and disappear. Mum is heard to say, a stitch in ten saves nine astraying. Hey look, even the sun kneels down to pray. Sergeant Sunshine knows his faults. He rides the endless next last waltz. Says he loves his liver salts. And the moon speaks English, true or false. And Sergeant Sunshine's made the point. Sergeant Sunshine's made the joint. Sergeant Sunshine struck for life outside the city hall. Sergeant Sunshine, Sergeant Sunshine, Sergeant Sunshine, Sergeant Sunshine. Blue Time, Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Ci sono un sacco di musicisti all'ascolto e che vi salutano, da Elisa Saglia, poi c'è Bobby Wright, Alessandro Piovan, Gianluigi De Benetti, Elisa Bonomo e poi ancora un batterista che è stato qui recentemente, cioè Francesco Lazzaro, che ti saluta, Marisa, con i Kellers. Certo, con i Kellers. Con i Kellers, quindi insomma è una serata all'insegna della musica proprio, non c'è niente da dire, il rock. Prende sempre. Prende molto. A tutte le età. A tutte le età. E io sono contento e ringrazio Gianluca perché ha dato la visione di un Roy Harper facile. Sì, facile. È uno dei dischi più ascoltabili. Più ascoltabile, molto focheggiante in questo pezzo. Gli altri dischi di Roy Harper sono molto complessi, molto difficili, molto crepuscolari, molto malinconici, inavvicinabili musicalmente in alcuni momenti, secondo me. E danno anche l'idea di chi del personaggio. È un disperato praticamente, nel senso positivo o negativo del termine. E anche è venerato da tantissimi musicisti, sì, come David Gilmour, come Jimmy Page che ha lavorato, ha prodotto i dischi suoi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi musicista di grandissimo valore. Ed è un modo per riscoprire Roy Harper, esatto, che se no rimane sempre quello di Elvis. Ma si sta riscoprendo lentamente su certe cose. Gli era stato proposto di venire in Italia, ma per il momento non accetta ancora di venire. Ma può darsi, non si sa mai. Caro Tolo, lo conoscevi Roy Harper? Penso di sì. Di nome sì, però non l'avevo mai ascoltato. Cosa ne hai pensato di questo pezzo? Abbastanza semplice, non era difficile, non era complicato. Come era questo? Sergeant Sunshine. Esatto. Cioè che hanno... 69. Sì, ma guarda, io sento tanta freschezza in questa musica, che è il denominatore comune della musica che veniva realizzata in quel periodo lì, che sia Roy Harper o che siano Johnny Mitchell o che sia, insomma, tutta c'è sempre tanta voglia di novità, di spontaneità, di non mai niente di scontato. Mi è piaciuto molto questo brano, veramente, sì. Era contemporaneo e esigente Gianluca, Rocky Erickson, poi c'erano altri musicisti di grande valore all'epoca che suonavano, però musicisti sconosciuti che si formavano, si stavano formando nei club, suonavano nei club, nei piccoli club, nei club di Londra, esattamente, tantissimi, tutti quelli che, vedi la scena, nasce dall'unione di tanti musicisti, da musicisti che interscambiano le proprie esperienze, no? Oggi invece vediamo in Italia, poi magari all'estero collaborano ancora, ma la bellezza di questa scena musicale, una scena cresce quando ci sono tanti musicisti che collaborano assieme e creano sinergia tra di loro. Certo. E così è uscita una scena, sono usciti dei generi musicali in tutte le decadi, come negli anni 90 c'è stato il suono di Manchester perché c'era il laboratorio creativo, come negli anni 60 c'è stato il folk club a Soho, quindi la ripresa dei vecchi traditional folk a dispetto della skiffle music e della musica rock and roll americana, quindi il recupero delle tradizioni ma riprese e filtrate attraverso nuovi musicisti che reinterpretavano questi classici, questi tradizionali, proponendoli a un pubblico giovane. In questo caso è il pubblico hippie degli anni 60, di fine anni 60, e ancora oggi questi suoni, questi dischi suonano bene, perché suonano ancora caldi, perché intanto perché molti di quei musicisti guardavano al futuro. Oggi invece forse tanti musicisti guardano solo al passato, ricopiando pedissequamente tanti artisti. Sì. Esattamente, non c'entra molto, però io ricordo alcuni anni fa qui a Padova e qui vicino al cinema Pio X, quindi cinema proprio a qualche metro da qua, è venuto a suonare Eric Andersen. Eric Andersen non è propriamente Roy Harper, Eric Andersen aveva già un passato, però nel 70, 75, quando è venuto a suonare, il passato era già abbastanza lontano e le sue melodie incrociavano il folk, non era chitarra e voce alla Dylan, era un po' melodie, un po' incrociato il folk, quindi un po' musicali con l'orchestra, e mi ricordava leggermente Roy Harper, anche se gli anni non erano proprio gli stessi, però c'era questo collegamento, questa alchimia che abbiamo chiamato. Una contaminazione. È una contaminazione, lo stesso. A proposito di contaminazioni... No, ti rubo 30 secondi e poi andiamo con, Fabio. Andiamo con Fabio. Svolta. Di festa in festa. Gli appuntamenti in Veneto. Spettacoli, mostre, sagre ed eventi in Veneto. Alle 12.05 da lunedì a venerdì, in replica alle 17.05 e anche in podcast. Di festa in festa. Radio Veneto. Eccoci qua. Allora Maurizio, stavi dicendo a Fabio? No, volevo parlare con Cesare e con Fabio, perché questa è una scelta secondo me di Fabio ma anche di Cesare. La vedo dalla faccia di Cesare che è una scelta sua, anche, assolutamente sua. Vai Cesare. Ma no, in realtà non è vero, perché la scaletta l'ha fatta Fabio, però, pensando al fatto che lui ed io collaboriamo... Da sempre, perché all'epoca della scuola abbiamo cominciato a suonare, abbiamo messo su questi Swords che da 32 anni, più o meno l'anno di produzione di questo album andremo a presentare. E quindi è chiaro che le nostre radici musicali arrivano da semi molto simili. Anche i capelli. Anche i capelli. I capelli. I suoi semi erano migliori, però i capelli. La copertina di questo disco sta molto bene nei tuoi capelli. Ecco. Si sposa con l'epoca. Si sposa benissimo. Allora, che disco è, Cesare? Ma che cosa dire? April Wine è uno di quei gruppi, secondo me, un po' dimenticati, un po' sottovalutati. E molto criticati, sì. Che diede però l'inizio a quel fenomeno che poi esplose negli anni Ottanta, e forse fu una delle poche cose, dal punto nostro di vista, da salvare di questi anni Ottanta così tanto discussi. Là dove poi appunto nacque la New Wave British Heavy Metal, e quindi Saxon, e quindi i primi Iron Maiden, che poi ebbero Judas Priest, bravissimo, eccetera. April Wine è un nome un po' minore, che però secondo me racchiude un po' le radici di quello che poi... Sono molto noti in Canada. Ecco, vedi? Canadesi, sì. Anche i Gus Gull erano canadesi, no. Però... Non erano canadesi. Le Gus Gull erano britanniche. Ah, ho sbagliato allora. le ho anche conosciute. Perfetto, ho sbagliato. Dimmi, dimmi. Niente, secondo me è uno di quei gruppi da ricordare, perché fra i primi a, ad esternare questa, questa voglia di rock bella, diretta, piena, quella che riempie gli stadi, quella che ti fa pogare, quella che poi si è sviluppata in tutte quelle maniere che abbiamo citato. È un prima. Po' anche l'inizio di questo hard rock all'americana, ecco. Diciamo. Che si differenzia molto da quello inglese, perché comunque tra virgolette sembra sempre un po' più leggero, sembra sempre un po' meno, un po' più superficiale, però insomma il rock alla fine deve essere anche divertimento, non può essere solo una cosa intellettuale, anzi, cioè, ma sai che gli americani ci tengono molto alla radiofonicità dei pezzi, certo. E questo assolutamente radiofonico, questo è molto richiesto nelle radio FM americane, assolutamente. Il brano è Roller degli April Wine dall'album First Glance dello 78. Seven come on. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. È una bella sveglia questa, eh? Un'ottima sveglia, cosa dite? Un'ottima sveglia. Fabio, tre chitarristi. Compreso il cantante. Compreso il cantante. Sì, come altri gruppi storici, come i Bluster Cult, naturalmente, che ricordava Gianluca. Skinnard. Sì, ce ne sono molti. Era anche un fatto di scena, cioè il fatto di comunque tenere il palco con tre chitarristi faceva colpo. Che poi molti potrebbero obiettare adesso... ma ne bastava anche uno, cioè comunque tre sono troppi, eccetera, eccetera. Ma comunque il bello di questi gruppi era proprio questa loro graffiante purezza, in un certo senso la chiamerei. Poi sicuramente le critiche adesso pioveranno. Cosa dici, Tolo? Tolo, perché state pensando a qualcuno in particolare? Esatto. No, no, era così a caso. No, ho sentito arrivare un feedback da lontano. Se fate un'idea strana, di smentiscici. Molto positivo. Certo, le mie orecchie si orientano così, mi fanno venire in mente altre cose. Era un pezzo che non conosco, di Grand Funk Railroad, questo qua? No. Non era, un pezzo di April Wine, che poteva anche essere un po' darsi un pezzo di Grand Funk. Potente, erano leggermente più. Ragazzi, beh, appunto, scherzavi chiaramente. No, ma ti è piaciuto o non ti è piaciuto, Tom? Sì, beh, sì, abbastanza, sì. Sì, no, è tipico, sì, un po' le voci, quello che differenzia, come dicevate, un po' l'hard rock inglese, quello americano, è che l'americano è più radiofonico, ci sono queste vocine, perché mi sono venuto in mente i Grand Funk proprio anche per questo motivo, perché loro avevano un po' le voci così. Le chitarre, tre chitarre, se sono usate bene con colori diversi, perché no? Ci sono gruppi come i Buffalo Springfield, per esempio, Crosby, Stills, Nash, Young, quando suonavano insieme facevano delle bellissime, come dire, imbastivano queste chitarre, tutti facevano, come dicevate prima anche voi, no? Che si sentono tutti gli strumenti molto ben definiti, ognuno col proprio spazio, ecco, va bene, sì. Sai cosa? Mi ricordavano anche un po' gli Status Quo. Sì, sì, vero, sì, hai ragione. Verissimo. Landa. Così, sì. Un gruppo, che questi naturalmente non li conoscevo, scusate la mia ignoranza, però insomma capisco e sento bene che cosa stanno facendo, cosa hanno fatto. Il Status Quo sono ancora vivi e vegeti, quindi assolutamente. Ah, sì. Tra l'altro sono rimasti solo due chitarristi come membri originali della formazione. È vero, sì, è vero. Non lo so. Io so che li suonavo in sala da ballo tanto tempo fa. Ah, vedi. Una delle tante cose che suonavo in sala da ballo erano anche un paio di pezzi di Status Quo. Whatever you want. No, quello è venuto dopo. No, io Paper plane, è un rock and roll. All'epoca si suonava, guarda, suonava Alice Cooper, si suonava Joe Cocker, David Bowie, Deep Purple, eccetera, eccetera. Sto parlando dei primi del 71 al 72, 73, così. E... sì, vado un po' fuori tema, ma... No, assolutamente. Assolutamente. La gente ballava, c'erano queste sale piene con mille persone nella zona di Padova, non so se conoscete, vi ricordate la taverna di Fieso d'Artico? Sì, come no. Sì. Io sono suonato tutta la stagione nel 72 e facevamo molto Rolling Stones, a dire la verità, perché c'era questo gruppo di Padova con cui ho fatto un anno, si chiamava i Puppies. Erano famosi i Puppies. Sì, erano famosi. Avevano un cantante che era il primo diciamo clone di la prima tribute band della storia dei Rolling Stones, ma aveva una grande personalità questo cantante, era molto bravo. Bene, adesso, caro Tolo, ritorniamo leggermente indietro. Cosa dici, Gianluca? Ancora nel 69, un anno importante. Portate pazienza per altri due dischi, perché rimaniamo nel 69. Tu hai scelto una suite di 16 minuti. No. No, beh, fa parte di una suite di 16 minuti, una suite famosa. Valentine's storica, Suite. Esatto, storica. Il disco Valentine's Suite, anche la copertina Colossi, era molto bella. È molto bella. Mm. Tra l'altro il primo disco dell'etichetta Vertigo, sai, esatto, che Progressive aveva la particolarità di avere delle sottoetichette, vero, come l'AMI aveva la Harvest, certo, la Polygram aveva la Vertigo e molte altre etichette che insomma all'epoca andavano, e anzi i collezionisti ancora oggi cercano i vinili proprio per la sottoetichetta e per gli adesivi che ci sono nei 33 giri. Perché sapete benissimo. Posso intervenire un attimo? Dimmi. A proposito della Vertigo. Vai, vai. La Vertigo è la stessa etichetta che ha prodotto i primi dischi di Patto. Mi pare di sì, sì, esatto. Sì sì sì, sì, sì, sì. Non so se voi conoscete questo gruppo. Sì. Gli ex Time Box. Il Patto. Patto. E poi il cantante è morto per cancro alla gola sul finire degli anni 70. Quello sarebbe un bel disco da far sentire, perché di quell'epoca, sì, non molto conosciuto. Però che c'è era... un bel disco, Hold Your Fire, che è stato disegnato da Roger Dean con una copertina apribile a metà, e che è carino, insomma, anche questa è una particolarità del Progressive. Chitarra, che è stato il primo chitarrista, che è quello che ha sostituito Alan Oswald nei Tempest, che erano quel gruppo, quel super gruppo con John Iseman la batteria e Mike Fallo, Chris Fallo alla chitarra, alla voce. Alla voce, sì, Chris Fallo. Olli Asher era un chitarrista geniale. E la musica di Patto è veramente una cosa interessantissima. Vabbè, chiuso, scusatemi. No, no, abbiamo parlato dei Patto, è una cosa molto... Non abbiamo in scaletta però stasera, però... non si sa mai, nelle prossime puntate faremo un'altra puntata, certo, chiaramente. Ritorniamo ai Colosseum. Allora, beh, i Colosseum sono un po' più famosi, no? Certo. Noi stiamo facendo intanto una ricerca su band che di solito non si menzionano mai. Colosseum sono un po' più menzionati, ma insomma in Italia soprattutto hanno fatto tantissimo, hanno tanta popolarità, in particolar modo questo disco che è amato soprattutto in formato vinile, ma è anche in CD. E, è amato perché a Supersonic un po' di anni dopo lo trasmettevano spesso e volentieri, certo, come in Agata da Vida di Aromata. Meritano tutti i dischi dei Colosseum, in particolar modo questo, Valentine Suite, e la formazione diciamo storica, quella con Dick Extra Smith al sassofono, Tony Reeves, Dave Greenslade, che poi formerà i Greenslade, certo, John Iseman. L'immenso, ancora oggi leader dei Colosseum, che suonano ancora in maniera fantastica, e James Littleton alla chitarra, che poi verrà sostituito da Clem Clampson poi negli Humble Pie, ancora oggi nei Colosseum. Esattamente. C'è una particolarità dei giorni nostri dei Colosseum, Dick Extra Smith, che è morto nel 97, è stato sostituito da Barbara Thompson, moglie di John Iseman, collaboratrice anche in questo disco, in Valentine Suite, al flauto. Sì. Lei, a proposito, in questi giorni stiamo parlando di artisti che non stanno bene, che muoiono purtroppo, lei da alcuni anni soffre di Parkinson, e ci sono dei bellissimi filmati di esibizioni italiane dove lei, seduta su una sedia, con i tremori sulle mani, riesce a suonare il sassofono come se non avesse nessun problema. Cioè, è incredibile come la musica riesce a portarti ad un livello che neanche la tua salute riesce a fermare. Certo, perché hai scelto Valentine Suite, o meglio un pezzo da Valentine The Suite? Cattle. The Cattle, perché quello? Perché siamo passati, per il momento abbiamo sentito il folk, adesso è giusto che sentiamo qualcosa di pesante, è un pezzo d'impatto, e qui c'è tutta la bravura dei musicisti, tranne il sassofonista che qui non c'è, ma sentite che roba. Esatto. The Cattle, Colosseum. The sun's passing. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Cosa possiamo dire? L'energia di Colossio è proverbiale dal vivo. Un gruppo che ancora adesso spacca. Fantastici. E questo è un pezzo che ha sempre spaccato, caro Gianluca. Parecchio. Come mischiare i Cream, il jazz, il blues. Questa gente che proveniva dal jazz, dal blues, aveva suonato con John Mayall, con In Bare Wires. L'idea era nata lì. Poi certo. Si è sviluppata nei Colosseum. Questo pochi dischi, è sangue puro, ragazzi. Questo è sangue, proprio in maniera più bella. Cioè, proprio è favoloso. Non abbiamo parole, Tolo, per definire un pezzo simile. Cosa ne pensi? Ah, questo è il tipico esempio di come si affrontava la musica, il palco in quell'epoca lì. Non, questi sono i Colosseum, ma tra l'altro una cosa un po' atipica per loro, perché fanno una jam di pura energia dove tutti suonano, si suonano ascoltandosi e senza risparmio, nessuno che si risparmia veramente, però tutto forma un assieme molto omogeneo, molto, molto vivo. Cioè, era proprio oggi adesso non esiste più queste cose, perché ma anche visivamente. Allora un gruppo rock va sul palco e tutto è prestabilito, ci sono delle mosse, ci sono delle scenografie. Questi qua si mettevano sul palco, si guardavano e senza ruffianarsi il pubblico come succede adesso, e suonavano, facevano musica viva, veramente musica viva, quella che ed era, pensa quanti anni fa sono passati, quanti anni sono, eppure questa è musica più viva e più giovane di quella che si sente in giro per i nostri club, le nostre è veramente amaro constatare questa cosa qui, perché poi questo, cioè, sono a casa mia sentendo queste cose qua, perché c'è una bella parte di quello che suono io continuo a suonare così anch'io, improvvisando, no? Capite? L'improvvisazione, certo. Sempre senza prestabilire, ascoltandosi, uno dà un'idea, l'altro lo segue, è tutto uno scambio. L'abbiamo riscoperto da poco, vero Fabio? Esatto. Cioè, e devo dire anche che questo brano qui, a parte questo modo di fare la jam eccetera, però c'è una linea di voce sopra che si ripete, che potrebbe essere tranquillamente un pezzo trasportato ad oggi, una hit magari fatto da con altri modi, altri suoni, altre basi, però c'è questa linea melodica. Chi è che cantava a proposito? Non era Chris Farlow questo? No, non c'era Chris Farlow qua. C'era James Litterland. Chris Farlow arriverà nel disco successivo. Cos'è, una donna questa o un uomo? No, è un chitarrista, James Litterland. Scusa? È James Litterland, chitarrista, uomo. Che cantava? Sì. Ah, è una voce maschile. Sì, una voce maschile, sì. Quindi questa è la formazione di Colosseum pre-Chris Farlow. Sì, esattamente, sì. Ho capito. Poi arriverà per Daughter of Time del 70, altro disco mostruoso in cui c'è al basso c'è anche Michael Clark, che poi suonerà negli Uriah Heep. Buongiorno. Gente... Attualmente nei Colosseum Michael Clark. Sì, esattamente. Bello, molto bello. Adesso abbiamo scelto, cioè... Fabio ha scelto un pezzo che ama particolarmente anche Cesare, perché secondo me Cesare, questo è un tuo punto di riferimento, Philainot, un tuo punto di riferimento, Cesare. Maurizio, incredibile. Beh, allora, iniziamo la presentazione di questo brano, se Fabio è d'accordo, sì. Facendo degli auguri così virtuali, un po' tristi, per quello che doveva essere il compleanno di Philainot, che cade oggi. Esatto, sì, cade Philip oggi. Parris Philainot oggi avrebbe compiuto 64 anni. Quindi casca a fagiolo questo brano qui. Ma Philainot, come Jack Bruce, si parlava prima, uno dei primi riferimenti che uno che, come me, ha scelto a un certo momento della sua espressione creativa di ricoprire un doppio ruolo, quello del cantante e del bassista insieme, cercava appunto dei riferimenti anche in questo, e Philainot per me è stato uno dei primissimi. L'ho sempre apprezzato, continuo ad apprezzarlo per l'anima, per il soul, per il calore che trasmette quando canta qualsiasi cosa, perché io veramente adoro quest'artista, è capace di fare quello che in quel brano va fatto con maestria, trasmettendo un sentimento. Veramente a me lascia sempre la bocca aperta qualsiasi cosa senta di lui. Che ruolo hanno avuto i Thin Lizzy come band, Fabio e Cesare, secondo voi? Beh, i Thin Lizzy sono stati una band che ha avuto un suo apice negli anni 70, alla fine degli anni 70, e già negli anni 80 era un altramonto, ai primi anni 80. Lui ha risentito proprio emotivamente del fatto che i tempi cambiavano, che le mode cambiavano, che altri gruppi sopraggiungevano, e quindi è andato in crisi personale proprio lui, è stato malissimo, tanto che poi la sua fine lo testimonia, ha ceduto, diciamo, alle varie ai vari stravizi dell'epoca, certo, per cui alcol, droghe, eccetera. Però era una persona che dà l'impressione di essere stato sempre una persona molto fragile, comunque tormentata. Un leader, perché comunque il gruppo l'ha sempre capitanato lui, scrive tutti i brani, sempre affiancato da grandi chitarristi, non dimentichiamo appunto Gary Moore, certo, John Sykes nell'ultimo periodo, Brian Robertson, Snowy White, certo. Il fatto che lui comunque fosse già la particolarità di avere la madre brasiliana, mm-hmm, e il papà irlandese, sì. La mamma era irlandese, papà brasiliano. Ah, e allora mi sono sbagliato, scusate. Mm-hmm. Comunque sia, questa mistura già particolare di per sé, in un bassista cantante, in una Irlanda ultracattolica come era quella degli anni, certo, 60, certo. C'è un aneddoto che ha detto la mamma Filomena Lynott. Phil era bambino e le mamme guardavano Phil e dicevano: ah, Phil, caro bambino, speriamo che i tuoi amici dell'Africa ti vengano a riprendere. Tanto per dirti l'ambiente in cui è cresciuto, insomma, ecco, c'era del razzismo, certo, pesante nei suoi confronti. Lui, che era un figlio di, cioè, era meticcio, esatto, in Irlanda in cui traspariva che era, insomma, ecco, figlio di una hippie. Comunque il brano scelto non è un brano dei suoi più famosi, l'ho fatto naturalmente apposta. Il brano è Little Girl in Bloom, l'album è Vagabonds of the Western World del 73, i Thin Lizzy. Little girl in bloom, she cares. home, don't tell until alone. When your daddy comes back, go tell him the facts. Just relax and see how he's gonna react. Sono contento, siamo contenti perché molti anni non facciamo abbiamo ascoltato i Thin Lizzy. Stasera, dopo tanti anni, abbiamo risentito i Thin Lizzy e li meritavano assolutamente. Phil Lito merita sempre di essere ascoltato. Sempre e comunque. Sempre e comunque. Anche, penso sei d'accordo, Tolo, Phil Lito? Bellissimo. Vedi. Bello questo pezzo, non l'avevo mai sentito, proprio bello. E questa chitarra poi alla fine che... passa da una liricità molto intensa a una, c'è quello stop che sembra una cornamusa, quasi un suono di cornamusa, poi prende, vai, comincia a suonare in tonalità di minore, più rock blues, poi ritorna in maggiore, cioè molto, veramente interessante, bello. Sì, non lo conoscevo sto brano qui, Thin Lizzy. Mi sono sempre piaciuti, mi ricordo Whiskey in the Jar, certo. Lo ascoltavo con la radiolina attaccata sul bravo. Cuscino nel 73, mi ricordo, guarda, di notte, Radio Luxembourg. Fantastico. E tra l'altro osservavamo che Whiskey in the Jar è contenuta nello stesso disco di questo brano. Sì, infatti il suono è quello, sì. Bello, complimenti per la scelta. Grazie. Allora, adesso passiamo a un gruppo, non è proprio conosciuto da noi, o meglio era conosciuto però per modo di dire. È ancora attivo negli Stati Uniti, la formazione non ha più 3 cantanti, ne ha 2, perché il leader Chuck Negron ormai da tempo ha deciso di intraprendere la carriera solistica. Certo, sì. I Three Dog Night 1969, anche questo. Sì, guarda caso, vedi, poi vedi salteremo caso. Negli anni 70, no? Three Dog Night, la prima volta che sono stati menzionati, almeno io li ho ascoltati, è stato quando penso tutti abbiamo ascoltato la colonna sonora di Forrest Gump. Certo. E c'è Joy to the World. È vero. E da lì poi c'è stata la riscoperta, no? La ricerca di questa band. Ecco. Oggigiorno, quando si parla di cantanti, no, sembra che il cantante sia al centro di tutto e la band sia, voglio dire, il comprimario. In questo caso, l'interazione tra 3 cantanti, e una band che lavora. Cioè, 3-2-9 non sono solo i tre cantanti, ma è anche la band che lavora dietro. Non hanno pezzi loro, ma hanno rielaborato pezzi di altri, scritti da altri, Elton John, Harry Nilsson, piuttosto che altri, voglio dire, artisti. Cito ovviamente Harry Nilsson e Elton John, che sono i più famosi, che hanno scritto brani per altri. In questo caso Elton John ha scritto per esempio Lady Samantha anche per loro. Certo. Questo pezzo che andiamo invece ad ascoltare è di Harry Nilsson e si chiama One is the Loneliest Number. Amicissimo in dialetto di John Lennon. Certo. Harry Nilsson. Passarono una estate alcolica, sì, a Los Angeles. Esattamente, perché Yoko Ono l'aveva spedito. L'aveva cacciato, per l'aveva certo cacciato periodo, via, esattamente. E non ho scelto un disco da studio, ma ho scelto un disco live stupendo, con una copertina fantastica. Si chiama Capture Live at the Forum, a Los Angeles, di fronte a 18.000 persone. Ne ho scelto la versione live proprio per l'emozione, per ciò che riescono a dare dal vivo. Poi sono tre cantanti, non uno come oggi, no, canta te e io penso a suonare, no? Cioè c'è questa armonia straordinaria di tre cantanti che cantano insieme. La sentiamo, One is the Loneliest Number. Gotta do a song now, Chuck's gonna sing it. One is the loneliest number that you'll ever do. Bad as one, it's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you ever know. That you ever do. One is the loneliest number. Oh, one is you. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time making rhymes of yesterday. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Ti stai divertendo, Agostino? Io sono, cioè, nel senso che mi sto ascoltando quello che voi dite, perché sono tutte nozioni che io veramente da profano. Ma certi pezzi li conoscevi. Certi pezzi si li conosco. Dobbiamo solo sottolineare certi nomi anche. Che Gianluca ha fatto un'ottima scelta. E dobbiamo dire, ma anche lui che è un pozzo di conoscenza, una enciclopedia. Un'enciclopedia vivente. Dobbiamo anche dire che questa band ha avuto 20 o 30 singoli in classifica in Billboard, una cosa incredibile, incredibile. E poi l'impasto loro delle voci, lo devono recuperare le band. Non sempre c'è il cantante e canta solo lui, basta. La bellezza di certi pezzi, anche degli anni 60, americani, in parte anche inglesi, è proprio l'armonia vocale, ma anche il suonare e cantare insieme. È vero. È che vero. Oggi provaci, certo, è difficile, voglio è difficile, dire. È complicato. Sfondo una porta aperta di qua. Molto aperta. Adesso, caro Tolo, Fabio ha fatto una grande scelta. Ha scelto il più bravo di tutti. Sì, uno sul quale potremmo fare una serata intera, cioè non basterebbe, non bastano due minuti, un minuto. E cioè, sono andato su Frank Zappa. Tolo, cosa ne pensi di Frank? È vero che non basta una serata intera con Frank Zappa. Mamma mia. Stiamo parlando di un geniaccio, una persona estremamente libera. La prima cosa che mi viene in mente è libertà, poi grande genio, grande capacità di immaginazione, naturalmente con tutti i mezzi tecnici a disposizione per realizzare tutto quello che lui aveva in testa. Ha sempre saputo chiamare dei grandissimi musicisti per lui, che suonavano tutti quanti, ognuno preso a sé stante, insomma, è tutto un programma. Sicuramente no, Frank Zappa, ecco, è uno che fa storia a sé. Sì, questo brano Zombie Woof live, versione live, perché mi sembrava giusto mettere una versione live, è contenuto, la versione live, nell'antologia dell'88, Cheap Thrills. La traccia invece originale era contenuta in Overnight Sensation del 73. Altro album di un certo peso. Assolutamente. Molto peso, peso molto. Cioè, penso a Montana. Esattamente. Esatto. Come diceva giustamente Tolo, lo senti, cioè ti insegna la libertà e la capacità di spaziare, di contaminare qualsiasi cosa in maniera geniale, e poi solo rimanere stupefatto e ascoltarlo. Sì, perché lui aveva, cioè lui ha fatto, c'ha tutta la musica americana e non solo, tutti i generi in testa. Sì. E passava da non so se avete visto quel film Baby Snakes, come si chiamava? Baby Snakes, mi sembra, quel documentario di un concerto che c'era Terry Bozzo alla batteria. Ah beh. C'è un lungo documentario dove c'è il concerto, credo sia di fine anni 70. Fantastico. E là si sente proprio come passavano da quasi tutti i generi in rassegna, tutti i generi di musica, dal rock and roll alla ballata anni 50, al rock, al jazz rock, in maniera molto fluida, no? Cioè loro lo fanno in maniera incredibile, cioè con cioè una macchina da guerra, insomma. Sì. Veramente quello che abbiamo sentito fino adesso è bellissimo, però cioè, mettere il Frank Zappa qui è lo so, un colpo basso. Esatto, qui in questa versione live c'è anche, ma questa è la nota minore all'interno di questo brano con un mostro del genere, è presente anche Steve Vai alla chitarra. Steve Vai che, ahimè, poi... Ecco, vabbè, qui potremmo fare una digressione ampia. No, ma Steve Vai, no, per carità, è un grandissimo. Assolutamente. Ho fatto, cioè, per lui, grandissimo. Poi, sai, poi i seguaci non sono tanto grandi come lui. Sì, sono i vari cloni. Comunque direi che la cosa migliore è ascoltarcelo, è Zombie Woof Live dell'88, nell'antologia dell'88. My spirit did a midnight creep. You know I never sleep no more. Blue Time. Frank Zappa. Con Frank ci si stupisce sempre. C'è poco da fare. Frank non ha parole. Frank visto a Padova, non mi ricordo più l'anno. Quanti anni fa? Non mi ricordo più l'anno. Se c'è qualcuno che ci può aiutare, magari in ascolto l'anno, non mi ricordo. L'hanno fatto al Palasport a Padova. Posto assolutamente indegno per ospitare un artista del genere, però l'occasione era assolutamente ghiotta, imperdibile, anche perché vista sui 20-22 anni d'età, insomma. Sì. Ti lascia steso, ti fa riflettere. Sì. Benissimo, ma cosa possiamo dire altro di Frank? Nient'altro, è tutto, Frank è tutto. Lo dice anche Elio, le storie tese, che Frank è tutto. Si sono ispirati a... Appunto, esattamente. Adesso facciamo sentire un album bellissimo, che è Argus. Argus è un album meraviglioso. Degli Wishbone Ash. Un gruppo non è molto amato, meglio... È poco conosciuto dalle nostre parti. Poco conosciuto da noi. Dimenticato da molto tempo. Anche loro soffrono della sindrome dei New Trolls. Nel senso, cioè? Che si sono divisi i due leader, Martin Turner e mi dimentico sempre, Andy Powell. Sì. Si sono divisi, cioè da una parte Andy Powell con i Wishbone Ash attuali e Martin Turner con i Martin Turner's Wishbone Ash, che propone i pezzi di Wishbone Ash. Quindi c'è Andy Powell che va avanti con i dischi, con i concerti, eccetera, eccetera. E Martin Turner che va avanti con il suo repertorio, insomma, ecco. Si sono un po' divisi, però diciamo che il moniker Wishbone Ash, cioè il nome di Wishbone Ash, rimane comunque a Andy Powell, che porta avanti, unico sopravvissuto dalla prima lineup, questa formazione. Cosa ne pensi di questo album che alcuni critici hanno detto si avvicina alle tematiche dolci e melodiosissime dei Buckley James Harvest nelle ballate? Sei d'accordo? È un po' tanto, nel senso che Buckley James Harvest avevano una tastiera, invece loro non ce le hanno. Affidano tutto l'armonizzazione delle chitarre. Belle chitarre, deliziose chitarre. I critici sono sempre rimasti un po' così interdetti, classificandoli hard rock, folk rock, progressive. La bellezza proprio degli Wishbone Ash è che sono inclassificabili e hanno uno stile veramente originale. Questo ce lo sentiamo in Warrior, traccia tratta da Argus del 72. Gather there, us in our surrender. Tomorrow the plow becomes the sword. Make us stronger in our danger. Tolo, che meraviglia questo pezzo, a noi è piaciuto moltissimo, non so se sei bellissimo, d'accordo. Bellissimo, peccato che prima c'era Frank Zappa. Peccato per questo. Allora, sì, questo può essere, l'avevo sentito io sto disco, non so se era questo o il primo, non so se era il primo, che l'avevamo nella nostra discoteca in Wisman Ash, sì. Tra l'altro mi è capitato di suonare prima di loro nel 97 in Svizzera, guarda caso. Ma direi che sì, difficile essere obiettivi perché ho ancora nelle orecchie la musica di Frank Zappa. Aspettate, io approfitto per salutarvi adesso perché devo scappare e niente. Manca poco alla fine della trasmissione. Sì, manca mezz'ora, manca mezz'ora. Beh, vediamo. Io intanto saluto tutti, però cerco di rimanere ancora un po' in ascolto. Certo. E grazie. No, noi ti ringraziamo della disponibilità, innanzitutto. Grazie, sei stato veramente gentilissimo. Veramente complimenti per... Tolo, io te lo rinnovo, disco nuovo, ce lo vieni a presentare, ti aspettiamo. Il disco nuovo arriva proprio in questi giorni, sì. Poi ci sentiamo io e te, ci mettiamo d'accordo. Sì. Va grazie, bene. Grazie a tutti. Grazie Tolo. Ciao, grazie. Ciao. Caro Gianluca, una coppia simile come Andy Powell e Ted Turner. Incredibile, cioè proprio la magia, questo è un pezzo magico. Parlavamo con Fabio e con Cesare, è un pezzo magico, da l'armonia magia delle chitarre che... E poi questa voce folk, ma folk onirico, questo folk che ti prende, ti avvolge. Ringraziamo anche Vannuccio, che è un grande amante, grande fan di Wishbone Ash. Wish Bell, un pezzo meraviglioso. Fabio, tocca a te. Adesso hai un'altra scelta, questo, non da poco. Questi li conosco anch'io, questi li conosco anche e questi te. Mi piacciono tanto anche, oh, a me. Questo è un disco che adoro. Questi li conoscono tutti. Questo c'ho ancora il 33 giri, c'è ancora a casa. 33 giri. Anch'io. In cornice oppure ancora gira? No, proprio gira. C'ho anche il CD, ovviamente, non poteva non esserci. Ian Anderson, i Jethro Tull. Io qui mi divido a metà con Cesare, perché è un gruppo che noi abbiamo amato moltissimo. Quando sono venuti a Padova, in anni non sospetti. Io li ho visti all'epoca di Figures & Freaks. Ah, beh. E sono stato spinto dalla folla incredibile verso il Palasport. Proprio spinto. Pazzesco. Dentro al Palasport. Un'onda. Un'onda, è stata un'onda, un'onda umana. Una cosa incredibile. Una cosa incredibile. Un uomo e un flauto. Un uomo e un flauto. Cioè, riuscire con un flauto praticamente a creare uno dei gruppi storici, che non si possono definire né hard rock, né solo prog, né solo folk, ma un po' tutto insieme. Per cui un genere molto loro. Con brani sicuramente spesso meno immediati di quelli già a volte complessi dei Genesis del periodo, ma comunque una unicità che li ha fatti rimanere poi nel culto, insomma. Sì, perché tu hai scelto una delle loro hit da concerto che fa esplodere tutti. Sì, esatto, Locomotive Breath, che è comunque contenuta in un album mitico. Aqua Long del 71. Vedo come sei illuminato, Cesare. Beh, Cesare è illuminato da un bel po'. In questo momento sei illuminato. che vi devo dire? Sei illuminato. È un alogeno, praticamente. caro Cesare. Che vi devo dire? Allora, Jethro Tull mi ricorda calde lacrime. Sì. Piante durante il concerto del, cos'era, 81, che non era solo commozione, insomma, però. io li vidi al Palasport ex a San Lazzaro, sì. All'epoca di Brothers and Beast, che sì, secondo me è un album che è stato sottovalutato, sì, perché a me è piaciuto molto, ha degli spunti veramente eccezionali, ovvio che con le orecchie ancora ridondanti di Aqualung, Thick as a Brick, eccetera, è stato un pochino passato in secondo piano. A me è piaciuto molto. Comunque, tour promozionale di quell'album, data di Padova, lacrimogeni perché per respingere gli assalti degli autonomi, che uno è finito dentro, abbiamo fatto del successo il disastro. Poi io avevo tipo 16-17 anni, primo concerto che andavo a vedere da solo, mia madre impazzita, mi raccomando che si sente, guarda. Quando ha letto il giorno dopo quello che è successo, voleva uccidermi, ma insomma siamo sopravvissuti. A me è successo una cosa del genere, bellissimo, con la premiata Funeria Marconi, ecco, all'Arcella. Ecco fatto, vedi? Una grande paura quella sera, sinceramente. Sì, allora andare ai concerti era anche una un prova, rischio. Un rischio di sopravvivenza. Avere una successa con Santana, gli arriva una, certo, moto sui palchi. Certo. Ecco fatto, vedi. A Bologna. Comunque, Locomotive Breath è una hit tale che quando recentemente andai a vedere Ian Anderson, che ha riproposto pochi mesi fa Thick as a Brick, parte seconda e prima, eccetera, come bis non poteva fare altro che quello. Esattamente. Sì. L'ascoltiamo. Thank you. shuffling madness of the locomotive breath. Runs the all-time loser headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees. Time live. È il caso di dire tanta roba qui, eh? Tanta roba, tanta roba. Tanta roba. Disco bellissimo questo. Meraviglioso. Adesso citiamo una band poco conosciuta, a torto. A torto. Io sono molto contento un'altra volta che dallo scrigno segreto di Gianluca sia stato tirato fuori questo grande band, questo grande gruppo. Perché Gianluca, questo grande band, questo grande ensemble, possiamo dire così? Come avere tutte le carte in mano e riuscire a non vincere. Ecco, è vero. I Stone Crow sono una formazione scozzese. Lì, il fondatore è Les Harvey, il chitarrista, fratello di Alex Harvey, quello dell'Alex Harvey Band. Esatto. La cantante è Maggie Bell. Bravissima. Viene considerata la Janis Joplin scozzese o la Bessie Smith scozzese. Il bassista è Jim Dewar, futuro bassista di Robin Trower. Tra parentesi. Poi morto anche, vabbè, dopo delle morti ne parliamo. Il manager è Peter Grant, Led Zeppelin, abbiamo già detto tutto. E il batterista è Colin Allen, che poi suonerà anche con Bob Dylan. Ah, okay, che cosa succede? Muore il chitarrista fulminato da una scarica elettrica partita dalla chitarra. La cantante, che era la fidanzata, va in depressione, ma comunque riesce anche a registrare alcuni dischi solisti con Jimmy Page e John Paul Jones. Jim Dewar morirà nell'87 dopo un'operazione andata malissimo, e però comunque sono entrati nella storia. A me piace moltissimo Otto John Lowe e questo pezzo che si chiama Sad Mary. Esattamente. We'll be right back. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Sì, abbiamo avuto l'autorizzazione. Abbiamo avuto l'autorizzazione di Gianluca. Noi non lo facciamo mai, non sfumiamo mai. Però purtroppo i tempi è quello che è. Manca solo un quarto d'ora scarso. E abbiamo sfumato leggermente. Ma abbiamo sentito una buona parte. Abbiamo sentito una buona parte. Adesso sentiamo una cosa che piace moltissimo ad Agostino. Sì. Beh, da flauto a flauto, insomma. Da flauto a flauto. Esatto. Hit single. C'è una continuità, esatto. Possiamo dire un hit single, questo qua. Poi assolutamente nome, sì. Poi il nome è quello di mia figlia, cioè perfetti proprio. Sì, sì. Un altro gruppo che testimonia che le contaminazioni alla fin fine, quando sono usate in maniera così sapiente, creano delle commistioni e dei risultati finali assolutamente imperdibili, che rimangono nel tempo, cioè non ci stanchiamo mai di ascoltare queste cose, e quando abbiamo la fortuna di ascoltarle come stasera grazie a questa trasmissione, grazie a voi che avete portato i dischi. E questo è un brano, appunto, come diceva Agostino, che ha il nome di sua figlia, quindi Silvia, tratto dall'album Focus 3 del 73. Anni che continuo a dire che stasera siamo corsi a parte un brano del 2010, ma tra il 69 e il 73 al massimo, per cui anni d'oro, anni di sostanza musicale. Io andrei a ascoltarlo, perché sennò il tempo qui è tiranno, per cui ascoltiamo Silvia. Thank you. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Hammond a non finire, insomma. Fabio. Per gli amanti dell'Hammond, una vera festa. Tra i vari brani che abbiamo ascoltato. Io proverò a farglielo ascoltare mia figlia, questa non lo so. Con i gusti. Fai con che risultati? Non lo so, perché sai, i gusti di giovani, certo, adesso, insomma, non so come sono. Datato finché vuoi, ma fresco 73, finché vuoi. Dopo sempre, sempre fresco, freschissimo. Un sempreverde. Un sempreverde. Adesso sentiamo un gruppo che giustamente ha tirato fuori dal suo cilindro Gianluca, un gruppo sconosciuto che chiude la scaletta di la scaletta sua. Non è un gruppo, è un gruppo sconosciuto ai più, non a noi, no, nel nostro piccolo li conosciamo. È un gruppo irlandese innanzitutto, e tra i primissimi in Irlanda a meschiare folk celtico e tradizioni celtiche con l'hard rock, ma quello duro anche. Ma quello, sì. Il brano non è proprio durissimo. No, pezzo no. Perché pezzo prende pezzo. I movimenti musicali riprendono moltissimo dalla tradizione celtica. Esattamente. Il disco che andiamo a proporre in realtà è un concept album dedicato a un'antica tradizione, a un'antica leggenda celtica. Adesso non ve la sto a spiegare, ma in Irlanda è molto famosa. Loro hanno avuto una grandissima, buona popolarità, una grande popolarità in Irlanda. Meno in Inghilterra, perché furono accusati di finanziare l'IRA addirittura. È vero, sì. Certo, tuttora sono comunque attivi. Nel 2011 mi è capitato in mano un piccolo tagliandino con la Festival di Copperty di Faber Convention, e loro erano nel cartellone dell'ultima serata, erano il gruppo più importante. Più importante. Tanto per dire. Ce li ascoltiamo da The Tyne 1973 con Dirk Doom. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo finito, Maurizio, purtroppo. Sì, abbiamo finito. Con loro ci sarebbe da stare qui ancora altre tre ore. Altre sì. Ore, sì. Ma buone, buone. E che dobbiamo dire, cari ascoltatori, abbiamo tagliato delle scelte perché purtroppo il tempo era quello che era. E parlare non di... abbiamo fatto tutta la scaletta. Sì, certo. Parlare di tante belle cose. Ma c'è l'anno prossimo. Sì, ma c'è l'anno prossimo, esattamente. Fabio ormai è di casa, vero? Se no potremmo fare una proposta notturna. Perché non sarebbe male, però, non sarebbe male. A me piacciono molto i notturni, confermo. Allora, che dire? Intanto io devo ringraziare per forza di cose prima di tutto Tolo Marton che ci ha tenuto compagnia al telefono e ci ha reso omaggio della sua disponibilità e soprattutto della sua cultura musicale e ci ha fatto molto piacere. E poi ovviamente i nostri ospiti qui in studio, cioè da Cesare Maggiolo che ho rivisto volentieri, che spero di rivedere prossimamente con la sua tribute band e i ZZ Top. Divertente. Dov'è divertente. La prossima data? La più vicina mi sembra sia il 28 di agosto a Rovigo, ma poi ci sono le date su Zizi Hot sulla pagina. Poi comunque... È il mio divertimento musicale. Sì, sì. Poi sarai qui di nuovo con gli Swords. Assolutamente, quello sì. Assolutamente sì. Manca poco. Manca poco, ecco. Vi aspettiamo. Poi appunto abbiamo Fabio Pastore. Esatto, grazie. Anche a grazie, te che adesso grazie, ci presenti grazie, l'ultima canzone. E poi il mitico Enciclopedia Vivente. Sì, a proposito di Enciclopedia, grazie mille. Gianluca, vuoi citare? Colgo l'occasione per citare, per chi ci sta ascoltando, un consiglio per gli acquisti. 1000 dischi per un secolo, 1900-2000, di Enrico Merlin, non è mio parente, è un musicista, un chitarrista prettamente jazz, ma comunque abbraccia una serie di stili. Doveva essere teoricamente ospite della trasmissione anche lui, ma è ad Edimburgo e Fringe Festival fino al 25, con uno spettacolo reading. Per cui ve lo consiglio, edizioni Saggiatore, è una specie di mattone che parte dal 1900, quindi dalla musica classica, dal blues così, fino al 2000, quindi spaziando per la classica, la musica sperimentale, il jazz, il rock, il blues e tutto quello che è musica. Non ci sono delle recensioni critiche, c'è semplicemente una ricostruzione storica. Merita, perché è una piccola enciclopedia, l'ho acquistato anch'io, merita, sono soldi spesi bene. Grazie ancora a tutti, ci salutiamo con che canzone? Ci salutiamo con Change It, dall'album Soul to Soul di Steve Ray Vaughan, Double Trouble dell'85. Una leggenda, chitarrista blues ma assolutamente sperimentatore e contaminatore. Anche egli morto purtroppo. Cause esatto. Drammatiche. Di nuovo grazie, l'appuntamento con il sottoscritto con Maurizio giovedì. Domani ci sono ancora. Va bene, non mi interessa. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.